Zanzara con Alessio Maurizi. Buonasera gentili ascoltatori, 824 0024 per intervenire in diretta anche questa sera fino alle 20.30, 349 238 6666, la Zanzara è radio24.it, siamo anche su Facebook. Allora cominciamo in attesa di mandare in onda i vostri interventi. Una notizia la voglio dare subito perché è di pochi secondi fa, ne abbiamo parlato molto anche noi, il blitz dei controlli dell'Agenzia delle Entrate a Cortina che avevano fatto. E ieri abbiamo sentito il sindaco di Cortina discutere. Ebbene, c'è un'agenzia che riporta uno dei primi risultati. Controllate a Cortina le dichiarazioni dei proprietari di 251 auto di lusso di grossa cilindrata. Su 133 intestate a persone fisiche, 42 appartengono a cittadini che fanno fatica a sbarcare il lunario, avendo dichiarato 30.000 euro lordi di reddito. Lo dichiara l'Agenzia delle Entrate del Veneto. Cominciamo con i titoli di Sky TG24. Articolo 18, governo lavora alla riforma, la CISL, basta teatrini, vediamo chi vuole trattare. Ficcateri stoppa le proteste a Genova e Palermo, Passera convoca i lavoratori. Dubbi della polizia sul decreto svuota carceri, Severino, norme concordate col Viminale. Tassa sul permesso di soggiorno, il governo fa retromarcia, ma la Lega si oppone. Caldarosca e TG24, un fondo di garanzia per favorire investimenti al sud. Primaria repubblicana, la leader del Tea Party, Bachmann, abbandona la corsa. L'Ungheria di Orban, non sappiamo se è una dittatura, rapporto shock dell'Europa. X Factor, meno uno alla finalissima, Frantonella, Francesca e Moderni. So dove siamo andati a pescarla in rete questa riesecuzione, pensiero stipendio, che è adattissima, manco a farla apposta a queste ore, alla puntata anche di stasera, perché dobbiamo tornare a parlare della questione dello stipendio dei parlamentari e dei risultati della Commissione Giovannini. Alla fine finisce come dopo le elezioni, hanno vinto tutti e non ha perso nessuno, cioè siccome il lordo è più alto della media europea ma il netto è più basso della media di altri paesi dell'Unione Europea, allora uno guarda una cosa, uno guarda l'altro, quindi c'è chi dice i parlamentari, no ma noi non guadagniamo di più, e c'è chi invece dice no, ferma un momento, anche perché dico io, se facciamo il confronto con la Germania e la Francia, dove al netto delle tasse in effetti il parlamentare tedesco e francese prende qualche cosa di più, parliamo però di paesi dove il PIL pro capite, ricordiamocela questa cosa qua, è più alto che in Italia, quindi è normale che lo stipendio sia un po' più alto. Quindi fatti i confronti, dice, direi che il parlamentare italiano se la passa un po' meglio, non del parlamentare tedesco, ma rispetto al cittadino italiano, cioè rispetto al PIL pro capite italiano, lo stipendio del parlamentare italiano sicuramente non è più basso di quelli della media europea. Ma sentiamo come il presidente della commissione stessa, Giovannini, alzi le mani e dica sì, una conclusione netta non c'è. Come commissione noi abbiamo fornito tutti i dati disponibili. Ma se lei dovesse dare una risposta secca, più o meno, non è possibile darla. Come lei probabilmente si arrabbierebbe se io le dicessi quanto guadagna, quanto porta a casa e usassi il lordo, proprio perché questo non corrisponderebbe a quanto lei effettivamente percepisce ogni mese in busta paga. E però voi non potevate fare un raffronto fra i netti? No, perché non era il nostro compito. Non era il mandato. Cioè il confronto tra i netti e quindi anche tra il potere d'acquisto, cioè tra il PIL pro capite dei diversi paesi, non era nel mandato di questa commissione. Allora ha ragione Formigli, Corrado Formigli, quando in questo dibattito dice ma questo allora è un modo della politica per scaricare il barile rispetto ad una decisione che deve essere politica. Sentiamo Formigli. Affidare alla statistica la questione degli stipendi dei parlamentari è una tecnica dilatoria, d'accordo? Il Parlamento si è inventato, si è trovato un altro modo di scaricare su chi non ne ha in realtà la capacità in questo momento la risoluzione di un problema che spetta la politica. Ma ha ragione il presidente Giovannini, ha perfettamente ragione, perché è un modo per mandare la palla avanti. Anche perché hanno mantenuto l'attacco. Ricordiamoci che così gli italiani non vorranno neanche andarci a votare, secondo me, in queste condizioni. Già. Ma come dicevamo, come dopo le elezioni hanno vinto tutti, chi si attacca al lordo dice che guadagnano di più, chi si attacca al netto dice che guadagnano di meno i parlamentari italiani. Così una buona fetta di parlamentari, per l'appunto. Sentiamo Maurizio Lupi. Basta leggere con molta attenzione anche il rapporto dell'Istat per vedere come non è vero che i parlamentari italiani prendono di più degli altri parlamentari europei. È evidente che se la politica non è utile, anche un solo euro, i cittadini lo considerano sprecato. Ma noi dobbiamo lavorare per tutelare la democrazia e le istituzioni nel nostro paese. Non so che cosa voglia dire Lupi quando dice, a proposito dello stipendio dei parlamentari, che dobbiamo lavorare per salvaguardare la democrazia. Non credo che sia a rischio la funzione dei parlamentari da questo punto di vista. Quello che però sta emergendo è che, più che puntare sulle retribuzioni, il Senato e la Camera, Schifani e Fini, potrebbero puntare sulle retribuzioni accessorie, cioè sui collaboratori fantasma. Sapete che i partiti prendono dei rimborsi, anche se poi non fatturano spese per i collaboratori. Dicasi per i viaggi che vengono rimborsati a prescindere. Lo spiega bene Donadi dell'Italia dei Valori. Sentiamo. Poi c'è un rimborso per le spese telefoniche che non è mensile, adesso non ricordo se è 2 o 3 volte all'anno, e poi ovviamente ci sono i trasferimenti che sono gratuiti, illimitatamente i viaggi aerei a livello nazionale, treni, autostrade, tariffe autostradali. Un'altra cosa incomprensibile è quella delle spese d'alloggio e di trasferimento su Roma, anche per esempio che va anche a parlamentari che stanno tranquillamente a Roma nelle loro case. Ancora Donati. Poi c'è una secondo rimborso spese che viene attribuito mensilmente, che è di circa 4.000 euro e che riguarda il rimborso per le spese di viaggio e di alloggio a Roma, ed è, direi, sostanzialmente una voce che, oltre a remunerare di queste spese, va in qualche modo anche a integrare lo stipendio in senso lato, nel senso che 4.000 euro, a meno che uno non si scelga un attico a Piazza di Spagna, sono di più del costo di un mini appartamento, come mi risulta la maggior parte dei parlamentari utilizza. Vengono versati anche i parlamentari che abitano a Roma o nell'immediata vicinanza. E poi c'è la questione, spiegata sempre da Donadi, dell'Italia dei Valori, dei collaboratori, perché c'è tra l'altro una vera e propria rivolta dei collaboratori che vogliono essere regolarizzati, perché la stragrande maggioranza non sono regolarizzati, i partiti e i parlamentari si prendono comunque i rimborsi e non sempre restituiscono tutto quello che viene dato loro, tutta la cifra che viene dato loro per questo capitolo, proprio ai collaboratori. Sentiamo. La terza voce riguarda, è la voce per i collaboratori, per gli assistenti parlamentari, viene chiamato rimborso per il rapporto con il collegio, perché gli assistenti parlamentari spesso stanno nel collegio di riferimento del parlamentare, e sono altri 4.000 euro. Anche qui si vengono dati senza nessun obbligo di presentare da parte del parlamentare fatture o altre giustificazioni di spesa, ma vengono dati forfettariamente come rimborso. Eppure, Mazzocchi ieri sera ai nostri microfoni, il questore della Camera, credo, dice: uno dei motivi per i quali è giusto che il parlamentare guadagni tanto e riceva il vitalizio, per esempio, è che al termine del suo mandato potrebbe essere un disadattato, cioè finire come un barbone, così ha detto letteralmente. Sentiamo. Io pure non faccio l'avvocato, ma io non lo faccio da 20 anni. Secondo lei, una persona che da 20 anni, con la magistratura che giornalmente, giustamente, fa delle nuove sentenze, secondo lei dopo 20 anni uno che non ha fatto l'avvocato può rifare l'avvocato o deve rimettersi a studiare? Mi sta dicendo che lei rischia di essere un disadattato? Per forza, ma scusi, dopo 20 anni che non faccio la professione. Dopo 20 anni quante legislature sono trascorse? Almeno 3. E allora la pensione di quanto è? Me lo faccia lei il conto? La pensione? La pensione sono esattamente, credo, sui 4.000 euro. E allora non credo che si possa creare un problema per questo. Insomma. No, ma che lei mi diceva ritorni a fare l'avvocato. L'avvocato non lo posso ritornare a fare. E intanto il Corriere della Sera ha pizzicato, si fa per dire, Schifani, Casini e Rutelli, ma anche Stefania Craxi, tutti alle Maldive a trascorrere giustamente le loro meritatissime vacanze in un resort, non so se addirittura è lo stesso. forse addirittura sì, dove le camere più care, le suite, costano tra i 2.500 e i $5.700 a notte. Probabilmente non saranno tutti alloggiati nella suite, però insomma la crisi e il taglio delle vacanze e dei consumi degli italiani non sembra avere colpito almeno questi parlamentari in particolare. Qualche nota? Adesso facciamo il traffico e poi salutiamo un gradito ospite che ci racconterà qualche cosa di più, il suo punto di vista anche su questa questione degli stipendi dei parlamentari, perché è una persona che ci collabora con i parlamentari. Allora, diciamo subito il nome: Enzo Pirillo, buonasera. Buonasera. Vincenzo Pirillo, ex collaboratore di Scilipoti per un anno circa. Sì, esattamente. E adesso buonasera, collaboratore di un altro parlamentare, ma ne parliamo tra poco. Prima facciamo il traffico. In diretta con Vincenzo Pirillo, ex collaboratore dell'onorevole Scilipoti, adesso collaboratore di un altro parlamentare. La rivolta dei portaborse potrebbe essere questo il titolo, anche se so che voi non volete essere giustamente chiamati così, ma assistenti, collaboratori o consulenti, adesso ci dirà lei, Pirillo. Molto lavoro, poca gloria, spesso anche poco stipendio, meno sicuramente di quello che viene assegnato ai partiti per gestire questa questione dei collaboratori, ed è proprio questo uno dei punti che viene evidenziato dal rapporto Giovannini, cioè si dice si assegna una cifra che poi non viene spesa e questa è una distorsione. Prima di tutto le chiedo, Pirillo, lei ha letto questo rapporto Giovannini, che cosa le pare? È venuto fuori tutto? Ci sono degli altri meandri nascosti da scoprire nel stipendio, insomma, dei parlamentari? Sì, buonasera a tutti quanti. Io ho letto il rapporto Giovannini e ovviamente è un'impresa titanica quella alla quale è stata chiamata la Commissione, anche se purtroppo non ha dato le risposte che molti si attendevano. In ordine alle domande che mi ha posto, cerco di riassumere brevemente. Intanto, per quanto riguarda la posizione, noi non desideriamo essere identificati come portaborse, perché è un termine dispregiativo nell'utilizzo più comune, derivante da vecchi preconcetti. La nostra qualifica è notevolmente diversa, noi ci occupiamo a 360 gradi di tutto quello che è l'interesse della segreteria del deputato o del senatore. Abbiamo delle qualifiche specifiche che spaziano poi a secondo anche delle esigenze, dalla redazione di testi normativi alle interrogazioni parlamentari, ai comunicati stampa, quindi noi collaboriamo appieno con l'attività del deputato, cerchiamo di essere di supporto a quelle che sono le necessità del parlamentare, che sia esso in Senato o alla Camera. Quindi la qualifica è il punto d'orgoglio al quale noi teniamo di sì, più. E tra l'altro di questo parleremo anche tra poco, perché è interessante anche discutere con lei della qualità del lavoro del parlamentare, che entra sicuramente in questo dibattito. Si parla molto di parlamentari schiacciabottoni e che sulla cui produttività poi ci si interroga. Lei è stato con Scilipoti per quasi un anno, poi ha dichiarato oggi al Corriere se n'è andato perché mi sono stufato di essere sfruttato. Perché? Sì, esattamente. L'orario di lavoro non era dei più comodi, diciamo. La giornata era piena dall'alba al tramonto, con un rapporto interpersonale spesso un po' rigido e poco soddisfacente, oltre che quantitativamente mal retribuito. Sembrerebbe uno invece Scilipoti un po' iracondo, ma invece così, con una tendenza simpatia tutta meridionale. Invece la sua testimonianza non è di questo segno. Beh, le attitudini personali dell'onorevole Scilipoti non sta a me giudicarle sì. O sindacarle. Io cerco di attenermi per quello che posso, ovviamente per quella che è la mia versione dei fatti, a quanto ho vissuto e a quanto credo di poter raccontare e documentare. Sì. E ci stava raccontando appunto del lavoro che non era soddisfacente, era troppo e poco pagato. Sì, è un troppo e ovviamente relativo all'esasperazione dell'orario di lavoro, perché le richieste andavano poi a coprire un impegno di 14 ore al giorno, alcune volte anche 8, 9, 10 giorni alla settimana, voglio essere un po' ironico, sì. Ma ecco 7 su 7 sicuramente, Non è che a noi assistenti parlamentari faccia paura il lavoro, anzi credo che il 99% dei collaboratori... Però certo, un conto è farlo portandosi a casa 5.000 euro netti più tutto il resto al mese, un conto è farlo portandosi a casa quanto al mese? Magari. Noi parliamo di tutt'altre cifre. Ecco, appunto, quanto? Ribadisco che tutti gli assistenti parlamentari amano questo lavoro e sono lieti del rapporto di cordialità e di fiducia che si instaura con il deputato e con il senatore, ma le retribuzioni girano su tutt'altri numeri. La mia esperienza è ormai pubblica, ripresa dal Corriere questa mattina: la busta paga era all'incirca di 600 euro per un full time a quadruplo turno, dall'alba al tramonto, veramente da mattina a sera. Non è questo quello che è auspicabile per i lavoratori, sì. Ma credo per nessuna categoria lavorativa del nostro paese è sotto la soglia di povertà quello che ci è stato propinato fino a questo momento, derivante anche dall'assenza di un inquadramento contrattuale, di una regolamentazione da parte delle istituzioni, che è quella alla quale ambiamo noi collaboratori in questo momento. Senta, sì, questo naturalmente sì, tra l'altro ripeto, si sposa anche con le conclusioni della Commissione Giovannini, perché si dice è evidente che assegnare questi 3.700 euro alla Camera, sono di più al Senato, per spese che comprendono anche i collaboratori, e poi cosa fa il parlamentare, non importa, non si va a sindacare, è un assurdo, è un errore, è sbagliato. È stato calcolato che si potrebbe ottenere un risparmio, non so più ora di quanto, non ho la cifra sott'occhio, ma notevole, se si assegnassero i soldi a chi effettivamente poi regolarizza e si fa accompagnare da un collaboratore. Questa è la vostra battaglia, ma quali sono gli ostacoli che dovete superare, Pirillo? Forse proprio questo problema qua, che i parlamentari non vogliono rinunciare a questi emolumenti, diciamo, diventa una forma diversa di stipendio, dai, diciamocelo chiaramente. Ma il parlamentare ha diritto a un'adeguata retribuzione. Se possibile, io penso che i parlamentari debbano percepire anche più di quello che percepiscono adesso, rapportandolo alla qualità del lavoro, all'impegno per la crescita della nazione. Questo esula dalla relazione economica che si va a ingarbugliare per quanto riguarda la nostra retribuzione, che deve essere pescata in un forfè di ex 4.190 euro, ora ridotto a 3.690, per il rimborso, come diceva giustamente prima l'onorevole Donati, per il rimborso del rapporto eletto-elettore. È normale che qualcuno debba essere penalizzato nella gestione di questi soldi. Poi, se alcuni parlamentari hanno inteso in questo periodo usare questa indennità come una forma di stipendio, cioè per arrotondare, sì, lo stipendio. Un arrotondamento non sta a medirlo, ma si può desumere agevolmente dai contratti, almeno da quelli presenti depositati in Camera e Senato. Beh, mi pare clamoroso nel caso che lei ci ha appena dichiarato, cioè Scilipoti dava 600 euro e ne intascava 3.700, naturalmente non sono tutti all'epoca finalizzati. All'epoca 4.200. 4.200, quindi mi pare evidente perché che ci sia... sono di quest'estate, i tagli sono relativi all'agosto scorso. Quindi possiamo dire che l'ostacolo maggiore a questa regolarizzazione in tutta trasparenza, come avviene negli altri paesi europei, della vostra figura di collaboratori parlamentari è proprio questo, cioè i parlamentari non vogliono rinunciare a questa forma di stipendio extra. È un po' una forzatura, ma possiamo ovviamente inquadrarlo in modo generico in questo modo. È certo che se il parlamentare deve sostenere altre spese, da qualche parte deve pescare i soldi per gestire le segreterie, i rapporti territoriali. E io sono dell'idea che qualunque spesa può essere ammissibile purché dimostrata, certificata. Dare dei soldi per una questione, esatto, per un'attività che poi non viene svolta, allora diventa un regalo puro e semplice. E quindi su questo, esatto, mi sembra che su questo siamo d'accordo. Però voi avete dei segnali che su questo la Camera e il Senato si stanno muovendo, si potrebbero muovere, bene, Schifani e Fino. Io so di collaboratori che percepiscono uno stipendio quantomeno dignitoso, di diversi deputati che sono favorevoli affinché l'ufficio di Presidente di Camera e Senato regolarizzi la nostra posizione, perché ovviamente anche per i deputati che già pagano decentemente e dignitosamente il proprio collaboratore è tanto di guadagnato avere maggiore chiarezza e maggiore trasparenza. Posso parlare io avendo un rapporto fortunato con il mio deputato, un rapporto cordiale e soddisfacente, non è lo stesso per altri collaboratori che ancora si vedono trattati in modo abbastanza dubbio e fumoso dal punto di vista del corrispettivo economico quando hanno il contratto, perché alcuni sono addirittura sprovvisti di contratto regolare. Alcuni ascoltatori al 349-238-6666 ci scrivono come si diventa collaboratore e poi non credono che lei guadagnasse solo 600 euro al mese. Questo è documentato, è documentabile, perché io ho un contratto registrato, come l'ho avuto in alcuni periodi di collaborazione con l'onorevole Scilipoti, quindi i dati sono pubblici e facilmente rintracciabili. Come si diventa? Ci si propone innanzitutto, si può pervenire all'attività di collaboratore parlamentare per tante strade, da esperienze professionali che spaziano dal giornalismo alla consulenza normativa, perché la figura del collaboratore parlamentare, non essendo inquadrata, non essendo regolamentata, ovviamente recepisce professionalità a 360 gradi. Il parlamentare ha bisogno di supporto in ogni ambito per poter svolgere il proprio lavoro ed è per questo che si appella a delle professionalità sia su presentazione diretta, ovvero ci sono dei collaboratori che gravitano nell'orbita delle istituzioni da anni, quindi di legislatura in legislatura possono mantenere un rapporto di lavoro con differenti deputati, sia altre persone che pervengono al rapporto di collaborazione come prima esperienza o esperienza lavorativa parallela. Le voglio fare un'altra domanda, Vincenzo Pirillo, perché lei è stato appunto collaboratore dell'onorevole Scilipoti fino al gennaio del 2010, quindi non era più con lui quando è diventato una sorta di ago della bilancia della politica italiana. Sappiamo il passaggio della fiducia che avvenne a dicembre di quell'anno lì, quindi 12 mesi più tardi. Non ha vissuto quel momento, però ha vissuto il momento precedente. Lei adesso collabora, credo, con un altro parlamentare dell'Italia dei Valori. La collocazione politica di Scilipoti all'inizio della legislatura nell'Italia dei Valori le appariva come le appariva? Cioè, era solidamente ancorato oppure diciamo si capiva fin dall'inizio che sarebbe andato in rotta di collisione? Di nuovo in compagnia di Vincenzo Pirillo, collaboratore assistente parlamentare, cioè assistente di un parlamentare. Chi è il parlamentare con cui lei adesso? Al momento collaboro con l'onorevole Anita Di Giuseppe, Italia dei Valori. Quindi lei è rimasto nell'ambito dell'Italia dei Valori. La domanda che le avevo fatta è questa: visto che con Scilipoti il rapporto è finito abbastanza presto, prima che lui balzasse agli onori della cronaca, ma come l'inizio di questa avventura politica nell'Italia dei Valori, come è andata? Ma bene, io mi scuso se glisso la domanda, ma non sta a me fare la disamina politica sulle scelte dell'onorevole Scilipoti, quindi preferirei... Va bene, nessuna analisi politica, ma lei era sicuro che... cioè è rimasto sorpreso quando lui ha cambiato casacca? Questo forse ce lo può dire, una impressione sua personale. Ma non sono rimasto particolarmente sorpreso, comunque non ero interessato e non sono interessato all'attività dell'onorevole Scilipoti, altrimenti sarei rimasto al suo fianco in tutto il mandato. Benissimo, un'altra cosa... Ero più interessato all'aspetto della relazione professionale tra il deputato e il collaboratore. Per cui se c'è ancora un minuto ritornerei volentieri sull'argomento. No, io invece un'altra domanda le volevo fare ed è questa. Abbiamo accennato alla questione della qualità del lavoro dei parlamentari, della produttività, della qualità, perché si sente spesso dire che, lo ha detto anche Berlusconi, no? Che il Parlamento è pleonastico, è eccessivo, servono solo per schiacciare i bottoni, c'è una bassa produttività in termini di legge rispetto al passato. Lei da questo punto di vista come giudica il lavoro dei parlamentari? Io posso rispondere solo per quello che mi compete. Ho la fortuna di collaborare con un deputato che lavora e lavora sodo. Il lavoro del parlamentare si evince anche dall'attività nelle commissioni. L'onorevole per cui sto lavorando in questo momento ha un'attività continua e costante, una presenza in aula e in commissione continua e costante, e sicuramente non è lì per schiacciare solamente dei bottoni. Per quanto riguarda l'attività degli altri deputati e senatori, sarei presuntuoso a dare un giudizio in merito. Va bene, l'ultima cosa, cosa farà se abbandonerà i parlamentari? Cercherò di portare avanti le mie attività, le mie prerogative, i miei interessi, insomma ci inventeremo del lavoro. Questo ambiente mi interessa, mi affascina, mi piace, sono lieto del lavoro e della collaborazione. Sarei ancora più contento, e qui mi permetta di riallacciarmi un attimo alla nostra problematica, se la nostra categoria venisse quantomeno regolarizzata. Chiediamo solamente a nome di tutti i collaboratori parlamentari di Camera e Senato il riconoscimento del modello europeo, ovvero il riconoscimento della qualifica professionale e la partecipazione delle istituzioni Camera e Senato nel discorso retributivo. Il parlamentare, deputato e senatore, ha pieno diritto a scegliersi il proprio collaboratore, perché noi basiamo il rapporto di lavoro quasi totalmente sulla fiducia. Guardi, quindi è normale. C'è un colpo di scena, cioè una dichiarazione di Scilipoti rispetto a quello che è apparso oggi sul Corriere della Sera, e dice, gliela leggo velocemente, poi se vuole la commenta, dice: in risposta a quanto affermato dal signor Vincenzo Pirillo, che sarebbe ovviamente lei, vorrei sottolineare che non sono stato di certo io a cercarlo, poiché dopo essermi stato segnalato da conoscenti fu lui stesso a proporsi per una collaborazione nella mia segreteria. E fin qua l'aveva detto anche lei, che ci si propone per questo tipo di lavoro. Non mi sembra una grande scoperta. Ancora Scilipoti dice: pur sapendo perfettamente che non aveva maturato alcuna esperienza in questo settore, decisi di stipulare con lui un contratto, bla bla bla, in seguito compresi che ad animarlo, ecco qua l'accusa, era l'intenzione di portare avanti interessi di società e forse personali, e constatai che generava confusione nella mia segreteria anche nel rapporto con gli altri collaboratori. Cioè lei faceva casino, Pirillo, o a me mi sembra che, conoscendo Scilipoti, almeno eravate in due a fare casino, sicuramente non era lei da solo. Le rispondo volentieri, però voglio fare il furbo. Devo sottolineare che tutto questo deriva proprio dalla mancanza di un riconoscimento di qualifica professionale e della mancanza di una regolamentazione, che è quella che noi stiamo chiedendo. Queste illazioni dell'onorevole Scilipoti si commentano da sole. Le faccio solamente presente che il deputato avrebbe avuto pieno titolo e diritto eventualmente a cacciarmi qualora gli avessi fatto casino. Certo, fare casino è un po' offensivo, visto che la gestione della sua segreteria all'epoca la tenevo io da solo, e oggi gli servono 4-5 collaboratori o consulenti o sottoposti o segretari, non so come identificarli, in quanto il regolamento della Camera prevede la possibilità di avere solamente due collaboratori regolarmente riconosciuti dall'istituzione, quindi regolarmente contrattualizzati. E poi Scilipoti dice anche che, insomma, i contratti venivano rinnovati di 3 mesi in 3 mesi, quindi lei, se voleva, se ne poteva andare. Però sappiamo, questo lo dico io, sappiamo anche benissimo che quando uno è sottoposto a un regime contrattuale di questo tipo, non è che se ne va, accetta le condizioni anche se le condizioni sono sbagliate. Caro Scilipoti, questo l'ho detto io. Pirillo, io la ringrazio, le auguro buona serata. Ringrazio lei perché mi ha dato l'ultimo assist. La contrattualizzazione di 3 mesi in 3 mesi, anche questa si commenta da solo. Non penso che sia un atteggiamento corretto da parte di un qualunque datore di lavoro contrattualizzare un dipendente prendendolo per la gola di 3 mesi in 3 mesi. Sarebbe più logico avere un rapporto leggermente più lungo, magari come in questo caso piena legislatura, perché se uno si sceglie un collaboratore è chiaro che questo collaboratore debba lavorare per tutto il periodo. Benissimo, grazie. Non faccia casino come me. Allora lì si spiega tutto. Grazie Vincenzo Pirillo, buona serata. E ripeto, grazie, buona serata. Quello che non va è il fatto che si assegnino questi fondi, quasi 4.000 euro ai parlamentari, per un'attività che non sempre viene svolta. Allora facciamola questa benedetta regolarizzazione: quando ci sarà il collaboratore contrattualizzato verrà erogata la somma e saremo tutti più felici e contenti. 800 24 00 24 con i vostri interventi, cari ascoltatori. Allora cominciamo subito con Loredana che ci chiama da Roma. Buonasera. Buonasera, buonasera. Senta, allora restiamo su questo avvilente argomento, perché è davvero una cosa che non si può proprio ascoltare, queste polemiche con i parlamentari. E io credo che 16.000 euro intanto siano non tutto, perché chi massica un pochino di retribuzioni sa che oltre quello vanno caricati altri contributi, che in questo caso sono a carico nostro e che sono quelli relativi alla previdenza di questi signori, all'assistenza sanitaria, ai loro corsi di lingue, alle loro attività, diciamo, sul territorio. E tra l'altro io mi chiedo, ma di che cosa stiamo parlando quando indichiamo il rimborso delle spese per il rapporto tra eletto ed elettore con la legge per le politiche che abbiamo oggi? Oggi questa gente non è eletta direttamente da nessuno, quindi il rapporto con questo territorio glielo dovrebbe pagare il partito di provenienza, il capo partito che li ha messi in quella lista. Quindi noi stiamo pagando cose che non esistono più nei fatti e stiamo continuando a pagare prebende che di fatto non seguono la riforma elettorale. Detto questo, sì. I collaboratori parlamentari sono delle persone eccezionali, perché è un lavoro molto complesso. Bisogna imparare il meccanismo legislativo, normativo, di funzionamento istituzionale, quindi è una categoria che ha bisogno di grande preparazione, e secondo me dovrebbero arrivare un po' più preparati anche a questo, perché non tutti hanno quel valore poi, diciamo, professionale legato a una retribuzione di un certo tipo, quindi ci vorrebbero corsi di formazione, ci vorrebbe la butto lì, ci vorrebbe una scuola, sì, è vero, sono d'accordo con lei. Assolutamente, assolutamente, perché non si improvvisa un collaboratore parlamentare. Peraltro questi parlamentari, che come l'onorevole Mazzocchi ieri si lamentano, poverini, di essere delle persone senza un'attività professionale. Allora, questa attività parlamentare o è un servizio o è una professione, mettiamoci d'accordo, perché se è una professione da fare per tutta la vita, la facciamo per concorsi a titoli ed esami, no? Concorriamo tutti e facciamo questa cosa per tutta la vita. Ma se siamo lì per fare un servizio ai nostri concittadini, sappiamo per definizione che siamo dei precari e dovremmo stare lì, a mio avviso, non più di due mandati, perché questo altrimenti determina una serie di avvitamenti su questa cosa. E perché quello poi non può fare più l'avvocato, quell'altro invece lo fa di nascosto, cioè, allora diciamo che si fanno due mandati e non altro, così ciascuno non perde la sua professionalità e torna a fare quello che fa. Visto che lei l'ha citato, grazie, intanto la ringrazio del suo intervento, le faccio sentire un pezzettino di ieri sera di Mazzocchi, il questore della Camera, che diceva: rischiamo di finire come i barboni. Un bravo ragazzo tipo Renzi, che a 30 anni fa il deputato e che non ha ancora un posto di lavoro, per due volte ce la fa, alla terza volta non ce la fa. No, sì, scusi, un ragazzo di 30 anni ancora non ha trovato posto di lavoro, che mi sta dicendo? Scusi, a 30 anni si è laureato appena, a 41 anni dovrebbe inserirsi nel posto del lavoro, fino a 60 anni non prende una lira, fa il barbone. No, io le dico, se lo fa due volte, poi a 40 anni voglio vedere come fa a inserirsi nel posto del lavoro, soprattutto in questa situazione. E questa è davvero clamorosa, finisce per fare il barbone, il parlamentare disadattato lo devo ancora trovare. Carla da Roma, buonasera. Carla, ci sente? Io adesso sì. Io mi volevo ricollegare all'argomento di ieri relativamente alle liberalizzazioni degli orari dei negozi. Sì, sì. Ecco, la mia opinione, penso che, voglio dire, è assolutamente, cioè a livello di concorrenza, purtroppo i negozianti che sono a condizione familiare e quant'altro non possono assolutamente competere magari con grossi centri commerciali che oramai sono dappertutto e che a livello di organizzazione, a livello di prolungamento degli orari, a livello di organico, a livello di flessibilità di lavoro eccetera, sono sicuramente voglio dire, non possono, quindi a mio avviso sarebbe ancor più voglio dire, ne soffrirebbero ancora di più, ecco, i piccoli centri locali, i piccoli esercizi commerciali. Ecco, io questa idea ho, Quindi non si può fronteggiare, cioè questa liberalizzazione in qualche modo. Sì, ho capito, grazie. Allora sentiamo, credo che su Sky TG24 ci sia in questo momento il presidente del Veneto Zaia che sta parlando di questo. Più aperto ad ore strane, come accade nelle metropoli del mondo. La verità è che nei nostri paesi, nelle nostre cittadine, tutto continuerà ad essere come prima. In Veneto si possono aprire i negozi dalle 7 del mattino alle 10 di sera. Sfido chiunque a trovare un commerciante che decide di aprire la notte o aprire prima al mattino. Uno Zaia, un Luca Zaia dunque scettico, va ad aggiungersi allo scetticismo del presidente della Toscana Rossi. Credo che anche il Piemonte e sicuramente il Lazio hanno annunciato che potrebbero fare qualche ricorso contro questo tema della liberalizzazione degli orari dei negozi. Titoli del TG2. Sale ancora l'inflazione, nel 2011 arriva al 2,8%, il livello più alto dal 2008, a pesare soprattutto gli aumenti dei prezzi dei carburanti. La tassa sul permesso di soggiorno potrebbe essere modificata in base al reddito degli immigrati. Maroni attacca, eliminare il contributo sarebbe inaccettabile. Polemica sul decreto svuota carceri, per il vice capo della polizia i braccialetti costano troppo e le camere di sicurezza sono inadatte alla detenzione. Nuovo caso di mozzarella blu, una partita del prodotto scoperta e sequestrata in provincia di Frosinone, i latticini sarebbero di produzione estera. E allora, direi che già che ci siamo possiamo sentirci anche i titoli di Sky TG24. No, di? Studio aperto, ho sbagliato, studio aperto. Ecco il pozzo dell'orrore, qui zio Michele buttò il corpo della nipotina Sara, qui accompagnò gli inquirenti per recuperarlo. Le foto shock verranno mostrate in aula la prossima settimana, il processo inizia il 10 gennaio a Taranto. Arrestati mentre stupravano una giovane donna nella pineta di Ossia dopo aver picchiato il compagno di lei. Manette, due rumeni, denunciato un terzo, la vittima in ospedale sotto shock per il branco, l'accusa è violenza sessuale di gruppo. Lo scorso luglio uccise fuori da una discoteca Stefano Raimondi, il ventenne di Lodi, in vacanza a Mykonos. Gli aveva fracassato la testa con una bottiglia rotta e è stato scarcerato oggi. Libero su cauzione, questa non è giustizia, si indignano i genitori del ragazzo. Emergenza occupazione, la CGIL insiste sul lavoro, niente bluff, il Premier deve parlare chiaro. Dietro front del governo sulla tassa immigrati, il contributo chiesto per il permesso di soggiorno, ma la Lega insorge, non provino a toccarla. Salma Hayek e la rivolta in Francia. Sarkozy conferisce all'attrice messicana sposata ad un imprenditore amico, ricco e potente, il titolo di cavaliere della Legion d'Onore. Scoppia la bufera. Napoleone si rivolterebbe nella tomba, scrive la stampa estera. È arrivata la neve, 3 milioni di italiani in viaggio per il ponte della Befana, piste perfette per la gioia degli sciatori, ma attenzione al rischio ghiaccio sulle strade, prevista un'ondata di gelo polare con bufere di vento e temperature in picchiata. E va bene, quando sono le 18:49 minuti e riprendiamo con gli ascoltatori, Alessandro che ci chiama da Milano, buonasera. Buonasera, buonasera a lei. Io volevo intervenire non per difendere i politici, ma perché penso che la vostra trasmissione debba dare delle informazioni corrette. Conosco bene il posto dove va la Craxi, dove sono andati gli altri. Il resort alle Maldive, sì. Esattamente, lo conosco bene. Beato lei. Dovevo andarci. Sì, cioè. Sì, sono fortunato da questo punto di vista, però devo dirle che i prezzi non sono assolutamente quelli. Dunque, io che cosa ho detto? Ho letto il sottotitolo del Corriere della Sera che parlava di suite che costano fra i 2.500 e i 5.700 dollari a notte. Questa settimana qui io avevo biglietti prenotati in 5-8.000 euro una settimana. Okay. Alla faccia, non è che sia pochissimo anche questo? No, sì, no, sì. Però se lei dice da 2.500 a 5.000 a notte, non è così, capisce? Sì. Allora io non la voglio difendere, però siccome credo nella vostra trasmissione e secondo me giusto non è precisare. Cioè, allora mi ripeta un attimo, nella settimana, poi lei non è andato, però... Io sono andato per motivi diversi, sì. Però voglio dire... 5.000 euro, che poi ovviamente rispetto ai dollari, sono di più, quindi probabilmente l'informazione non era sbagliata. Poi è chiaro, se parliamo della suite, guarda, è un po' tirata per i capelli. Sì. Io ho fatto nome e cognome alla sua collaboratrice, perché non è detto che sia quello anche quest'anno. Sì. Mi va di essere. Ma lei gli è capitato di trovarsi lì con Casini? Assolutamente, guardi, l'anno in cui sono negli ultimi 3 anni, un anno della Craxi va sempre lì. sempre. Un altro anno c'era Casini con la moglie regolarmente lì, perché devono avere, cioè, lei non ha cambiato resort, voglio dire, già si ribecca tutto l'anno in televisione e poi pure quando va in vacanza si, ma perché è talmente tanto bello che non cambio resort, perché mi faccio i fatti miei, certo, certo, però io ho fatto nome e cognome del resort, giusto per essere preciso, non è che voglio dire niente, però le posso garantire che i prezzi non sono assolutamente quelli, e che però mi ripete quanto ha speso per, quanto avrebbe speso per una settimana? In 5, considerando 3 bambini e 2 adulti, 8.000 euro viaggio incluso, non nella suite, ma la differenza è minima. Una vacanza che in pochi comunque si possono permettere, beato lei. Grazie. Assolutamente sì, sì, assolutamente sì, però la sopra non fare il qualunquismo, è per quello. No, no, giusto anche precisare e aggiungere ulteriori informazioni. Grazie, se aveva chiamato per questo voleva aggiungere altro, Alessandro? No, no, no, solo perché credo troppo nella vostra trasmissione e che quindi giustamente di 2.500, 5.000 notte. Però, scusi Alessandro, abbiamo precisato, però lei pensa che faccia una grossa differenza tra spendere 8.000 euro in una settimana anziché 2.000 euro a notte, cioè vabbè, in 5 con 3 bambini, però per non crede che per la media degli italiani sia comunque, ripeto, fortunato lei, una cosa inarrivabile? Assolutamente sì, ma io quello che io non sto difendendo loro, perché in un momento del genere danno l'esempio e non ci vanno. Non so per dire, io quest'anno ho dei problemi, non ci vado, ok? E loro problemi non ne hanno e quindi ci vanno. Appunto, però ecco, e per voi, se l'ho detto per lei, vi stimo troppo, capisce? Allora, è tanto anche 1.000, non so per come dirle. Va bene, va bene. Non è 2.500, 5.000, solo questo. Grazie, grazie Alessandro, buona serata. Andiamo a Latina, dove c'è Mariano, buonasera. Buonasera. Innanzitutto complimenti per la conduzione della trasmissione. Grazie. È salita notevolmente in questi ultimi giorni. Poi volevo intervenire riguardo gli stipendi dei parlamentari. Secondo me la cosa grottesca non è tanto il fatto che vengano smentite spudoratamente quelle che sono le realtà, ma il fatto che moralmente c'è questo trincerarsi dietro a dei privilegi rispetto agli altri, cioè al resto della popolazione, che siamo noi poveri cittadini, che siamo in un momento non delicato di più, perché si stanno rimettendo in discussione tutti i nostri diritti, se andiamo a vedere ad uno, e anche il nostro tenore di vita. Dunque è proprio questo trincerarsi, questo far finta di nulla, che è la cosa più fastidiosa, perché al di là dei soldi la situazione politica è delicata, nel senso che secondo me tutte quelle che sono le iniziative che stanno prendendo adesso a livello governativo saranno nei prossimi 2 anni un disastro dal punto di vista economico, dal punto di vista dei consumi e della produzione di conseguenza. Perché al di là delle liberalizzazioni, se io ho i soldi in tasca vado a comprare le cose in qualsiasi orario, posso avere un problema, sì, e magari lavoro tutto il giorno, trovare un negozio aperto va bene. Però per quanto riguarda gli acquisti a livello di abbigliamento, a livello di automobili, a livello di elettrodomestici e via dicendo, servono i soldi. Dunque, va bene, grazie, grazie Mariano. Andiamo a Bologna, da dove ci chiama Andrea, buonasera. Buonasera, salve. Prego. Ascolti, niente, no, io volevo intervenire, ascolto sempre la vostra trasmissione sul discorso ormai vecchio, tritato della casta. Il discorso è questo, che se fosse stato sbagliato fare il paragone con i parlamentari del resto dell'Europa, questi signori bisogna che si rendano conto in ogni caso che se l'operaio fa fatica a arrivare alla fine del mese, se l'operaio lavora in un'azienda dove lo stipendio gli viene pagato in ritardo, se loro prendono quei soldi lì bisognerà che se lo riducano, cioè vuol dire anche per loro è finito il tempo delle vacche grasse. Questa è la mia, è la casta, è composta oltre che dai politici, tanto è già stato scritto, non penso di svelare niente, sia dai magistrati, come cioè vuol dire, è quello oggi il momento, è questo qui. Qui bisogna capire che bisogna lavorare di più, magari prendendo meno, come la vedo io, nella situazione attuale nella quale siamo, che tutti i giorni peggiora. Grazie Andrea, grazie, mi sembra una sintesi inevitabile, la definirei così la sua. Stefano, dalla provincia di Urbino, buonasera. Buonasera, innanzitutto volevo farle i complimenti per come conduce la trasmissione rispetto allo stile un po' provocatorio di Cruciani. Fatto questo, io chiaramente l'argomento è sempre la casta, però credo che si stia un po' esagerando sul problema, non che il problema non esista, ci mancherebbe, io questo non lo discuto e probabilmente diciamo così, gli accorgimenti che vengono presi adesso sono stati presi dal decreto Monti, se se vedranno magari più avanti, però credo che la cosa più importante su cui discutere sia l'evasione fiscale. Cioè io credo che la casta sia sicuramente un problema, non solo a livello parlamentare, ma tutto ciò che è il pubblico e gli sprechi dalle province alle regioni, insomma quello che è pubblico non funzionale. Però credo che ci si stia sul discorso casta un po' insomma vendo un po' troppo, rischiando di svilire il vero problema, che sicuramente secondo me in questo momento è più un'evasione fiscale rispetto a tanti altri problemi che ci sono, però ecco, e se la sensazione che posso avere è che se noi scagliamo verso questo problema che, ripeto, esiste e che in realtà però... Insomma, secondo lei quello della casta è un problema anche sopravvalutato, e cioè quello della questione dell'evasione fiscale. Questo è il senso del suo intervento, mi pare di capire. Sicuramente anche i risultati della Commissione Giovannini indicano che certo i parlamentari italiani non è che guadagnino delle cifre il doppio di altri paesi, questo forse bisogna metterselo in testa. C'è tutto quello che la Commissione Giovannini non misura, cioè tutta una serie di privilegi accessori, di benefit, c'è la scarsa produttività, aggiungo io, del Parlamento italiano e l'incapacità della classe politica, ancora di più in generale, a produrre delle cose utili, delle riforme utili e durature, tant'è vero che abbiamo dovuto chiamare un governo di tecnici, o chiamatelo come volete, a risolvere una serie di questioni che sono rimaste aperte da decenni, ed è questa la cosa più drammatica. Sicuramente dell'Italia, tra cui anche la questione della lotta all'evasione fiscale che citava lei. Ricordo allora la notizia con cui abbiamo aperto, visto che è già passata quasi un'ora. A Cortina aveva fatto discutere le blitz della Guardia di Finanza, anzi dell'Agenzia delle Entrate, e noi stessi abbiamo ospitato il sindaco di Cortina d'Ampezzo che si lamentava un po' per le modalità del blitz, diceva ci hanno messo i bastoni tra le ruote a noi operatori che in quella settimana tra Natale e Capodanno facciamo grossa parte del fatturato. E però è arrivato uno dei primi responsi, ebbene su 251 auto di lusso e di grossa cilindrata controllate dall'Agenzia delle Entrate, 42 appartengono a cittadini che fanno fatica a sbarcare il lunario avendo dichiarato 30.000 euro lordi di reddito, avete sentito bene, lo comunica l'Agenzia delle Entrate del Veneto. La zanzara. Eccoci di nuovo insieme, cari ascoltatori, alle 19.13 minuti e staremo in vostra compagnia fino alle 20.30, 800 24 0024 per intervenire in diretta 349 238 6666. Cominciamo anche a dare un'occhiata su Facebook, magari tra un attimo. E adesso invece direi di sentire i titoli di Sky TG24. Lo svuota carceri non convince la polizia, il ministro replica norme concordate. Tassa di soggiorno, il governo vuole evitare la stangata, no della Lega alle modifiche. Stipendi d'oro in Parlamento, Monti annuncia, terrò conto dei rilievi della commissione. Confronto sul lavoro, la CGIL insiste, né trattative bilaterali né interventi sull'articolo 18. Tutte blu, Fincantieri in piazza Genova e Palermo, vertice al Ministero il 10 gennaio. Indigenti con il bolide in garage, a Cortina controlli su 42 presunti evasori. Un altro giorno nero per le borse, Milano giù di 2 punti, affondano i bancari. Duplice omicidio in Brianza, accoltellati un 81enne e la compagna sudamericana. Primarie repubblicane, Santorum, talona Romney, Bachmann e Perry dicono addio. Musica e sorprese, domani su Sky la finalissima di X Factor, anche in 3D. E allora, sentiamo anche i titoli del TG3, sentiamo. La CGIL, se il governo vuole l'accordo ci chiami e parli chiaro, basti con i blef, Monti sui costi della politica, terremo conto delle relazioni Giovannini. Professioni e ordini, il governo annuncia l'affondo sulle liberalizzazioni e le lobby fanno muro, commercianti divisi sui negozi sempre aperti. Benzina e carburanti infiammano i prezzi, inflazione ai massimi dal 2008, dall'Europa nuovo allarme recessione, giù le borse. Gli operai Fincantieri occupano l'aeroporto di Genova, chiedono certezze sul loro futuro, cortei anche a Palermo, sindacati dal ministro Passera il 10 gennaio. Tagli drastici nel bilancio del Pentagono, li annuncerà domani il segretario della difesa americana, a rischio i caccia F-35, gli stessi ordinati dall'Italia. Tensione tra governo e polizia per il decreto sulle carceri, braccialetti elettronici inutili e celle di sicurezza inadeguate per il vicecapo della polizia, misure concordate, replica il ministro. Il governo frena sulla nuova tassa per i permessi di soggiorno agli stranieri, voluta dall'ex ministro Maroni, l'ira della Lega è una vergogna. Vabbè, insomma, il gioco di parole era facile, però è carina la canzone e non è, ed è adattissima, non poteva esserci una musica più adatta. Oggi pensiero stipendio, non si parla altro che dello stipendio dei parlamentari e si commentano i risultati della Commissione Giovannini, risultati provvisori, ricordiamo naturalmente. Io ho detto che è un po' come dopo le elezioni ognuno annuncia vittoria, cioè i parlamentari, una parte almeno, dicono: beh, avete visto, il netto del nostro stipendio non è più alto di quello di altri paesi europei. Altri invece guardano all'ordo e alle spese complessive e dicono: no, fermate un attimo, non è proprio così. Anche perché, aggiungo io, se facciamo un confronto con il PIL pro capite di paesi come la Francia e la Germania, dove in effetti lo stipendio netto è un pochino più alto di quello italiano, è normale che sia così, perché l'Italia è un po' in basso in questa classifica del PIL pro capite. Dunque, quantomeno i parlamentari italiani se la passano un po' meglio, non rispetto ai parlamentari tedeschi, ma rispetto a quanto i parlamentari tedeschi se la passano in Germania, agli italiani va un po' meglio. Ai deputati e ai senatori italiani. Ma sentiamo su questo argomento l'intervista che ha suscitato molti commenti anche al 349-238-6666, alla nostra mail, in base di commenti e anche su Facebook, l'intervista a Mazzocchi, il questore della Camera, che per esempio dice: beh, guardi che tira una brutta aria nei nostri confronti, quasi come se me lo dovesse spiegare. Certo che tirano a buttare, in effetti è vero, è anche un po' merito vostro, cari amici parlamentari. Mazzocchi dice: quando vado al ristorante mi tocca dire che sono avvocato e non che sono onorevole. Grillo ha detto che i politici non devono entrare nei ristoranti e nei cinema, pensi un po' che tipo di politica siamo. Ma lei lo sa che io quando prenoto e vado con mia moglie in un ristorante, come lo prenoto? Avvocato Mazzocchi, non onorevole Mazzocchi. Perché oggi, se lei dice onorevole, dopo questa stampa e alcune trasmissioni, onorevole è sinonimo di ladro, sinonimo di persona che prende a privilegi. Mazzocchi, però io dico, se voi godete di questa cattiva considerazione presso l'opinione pubblica, è anche colpa di dichiarazioni come quella che ha fatto lei ieri qui da noi, e dice: rischiamo di finire come i barboni. È una frase che nemmeno scherzando uno, secondo me, poteva dire. Invece lei l'ha detta, sentiamo. Un bravo ragazzo, tipo Renzi, che a 30 anni fa il deputato e che non ha ancora un posto di lavoro. Per due volte ce la fa, alla terza volta non ce la fa. No, sì, scusi, un ragazzo di 30 anni ancora non ha trovato posto di lavoro, che mi sta dicendo? Scusi, a 30 anni si è laureato appena, a 41 anni dovrebbe inserirsi nel posto del lavoro. Fino a 60 anni non prende una lira, fa il barbone. No, io le dico, se lo fa due volte, poi a 40 anni voglio vedere come fa a inserirsi nel posto del lavoro, soprattutto in questa situazione. C'è questa deriva democratica che noi faremo in modo che soltanto gli industriali e i banchieri, non a caso sto dicendo questo, faranno i deputati, e i deputati anzi diranno: noi non vogliamo i soldi, li diamo all'opera via XY. La deriva democratica di Mazzocchi, non lo so, non è vicinissima, non la vedo proprio dietro l'angolo il rischio da questo punto di vista per i parlamentari. Sentiamo come un intervistatore di Sky TG24 è stato morso dalla reazione di Di Pietro quando lo ha accomunato ai parlamentari, lui è parlamentare, però sulla questione degli stipendi, sentite come ha risposto. Ieri comunque voi della Camera, lei è un parlamentare, avete detto che non guadagnate così tanto. Ha detto chi? Con chi sta parlando? Ha detto la Camera, no, l'ha detto la Camera, gli uffici della Camera l'hanno detto. C'era una Camera da letto che l'ha detto, non l'ho detto certo io una cosa del genere. Ecco, lei che cosa pensa? Una porcata del genere. Beh, non faccio tutto il buon fascio. No, io dico, comunque la Camera è la rappresentante. Posso dire una cosa? No, lei non faccia tutto il buon fascio. L'Italia dei Valori, non più di 3 mesi fa, ha presentato un emendamento, e l'ha ripresentato anche in questo decreto Monti, in cui prevedeva la riduzione delle indennità parlamentari. Lei lo sa quante persone l'hanno votata alla Camera? 22 per parlamentare soltanto. Lo sa chi erano i 22 parlamentari? Lo dica lei. I 22 dell'Italia dei Valori. Allora, quando lei dice la Camera, parla della Camera da letto degli altri, non parla di 22 parlamentari. No, io non volevo urtare la sensibilità. Sì, perché sta cosa di dittare buon fascio non mi sta bene assolutamente. In politica ci sono delle persone delinquenti e delle persone che hanno dato la vita per i loro ideali, capite? C'è stato. Sì, sì. Cioè, allora, quindi non confondiamo. Però per esempio. Questa idea di fare dittare buon fascio. Questo di Pietro. Abbiamo una notizia qua questa sera su Radio 24, almeno una mezza notizia. È un annuncio, è l'annuncio del ministro della difesa De Paola. Sapete che c'è questa polemica attorno ad una commessa di credo oltre 130 caccia che costano un totale di 15 miliardi di euro, praticamente un'altra manovra finanziaria. Oltre al fatto che c'è qualche dubbio sulla funzionalità di questi caccia, ed è un'agenzia americana di oggi, oltre a questo dubbio c'è anche la questione della spesa. Cioè, l'Italia può permettersi, dicono in molti, una spesa così per comprare questi 133 caccia? Cosa ci faremo? Poi non si sa, visto che per fortuna di guerre non se ne fanno più. 15 miliardi di euro, un'altra manovra finanziaria. Allora il nostro collega della redazione Paolo Panceri ha intervistato il ministro Di Paola, che ha annunciato, sì, taglieremo non necessariamente questa spesa, ma riorganizzeremo, ristruttureremo, sì, lo so, parole che abbiamo già sentito altre volte, però intanto sentiamo. Lo strumento non è sostenibile perché non ci sono le risorse e quindi bisogna riportare in equilibrio le componenti fondamentali di uno strumento, che sono il personale, le risorse per l'operatività del personale e l'investimento sul futuro. Quindi riportare in equilibrio vuol dire che dovremmo andare a agire sulle tutte le componenti, sulla struttura organizzativa, asciugarla. E quindi bisognerà che non ci siano più le resistenze al ridurre ciò che si deve ridurre. Non si può mai dire, ma non mi può toccare la caserma di Cani Cattini Bagni, perché se la caserma di Cani Cattini Bagni non serve, si chiude. Abbiamo cambiato sottofondo musicale, alleluia, perché ci voleva la Madonna di Lourdes. La Lega ha capito che la Padania non arriverà grazie all'opera di Bossi, l'opera politica di Bossi che ha da poco uscito dal governo, non arriverà tramite forse un'azione politica, ma potrà arrivare tramite un miracolo. È così che Andrea Rognoni, conduttore su Radio Padania di un programma che si chiama credo Cultura Padana e che è in pellegrinaggio a Lourdes, spiega così ai suoi ascoltatori come sia possibile, anzi sia doveroso, rivolgersi alla Madonna di Lourdes, perché è l'unica strada per ottenere il riconoscimento della Padania. Venire qui e chiedere così alla Immacolata delle Immacolate la possibilità che in qualche modo la realtà padana venga riconosciuta in quanto tale e difenda con dignità i suoi principi, i suoi valori, le sue radici, mi sembra la cosa più giusta da farsi, specialmente durante queste vacanze cosiddette appunto di Natale. E sempre il suddetto Andrea Rognoni spiega che è giusto recarsi a Lourdes, naturalmente, e invece non si va più a Roma in pellegrinaggio, non va più di moda. Roma, la città di Satana. Il viaggio per noi, il viaggio santo non è Roma, che è una città oramai diventata figlia di Satana per tantissimi motivi, ma è Lourdes, a cui è l'antica Lourdo, Lourdo in guascone occitano, diciamo cento ligure. E io vorrei sapere se Roma è diventata la città figlia di Satana adesso che la Lega è uscita dal governo, eppure stando pur sempre in Parlamento, oppure se lo era anche prima. E poi ancora, qua si entra nello specifico e il commento comincia a diventare gustoso, perché il conduttore del programma dice, insomma, Maria non è attenta solo alle grandi organizzazioni e agli stati, ma anche alle realtà piccole come la nostra. Maria non sta a guardare in faccia soltanto alle nazioni Stato, agli Stati-Nazione, alle proterve realtà raffigurate dalle capitali effettive riconosciute da Strasburgo e Bruxelles, ma in qualche modo volge il suo sguardo pietoso e speriamo anche verso la Padania, che insomma non è stata ancora riconosciuta ufficialmente, ma chissà che quel cartello, che ci sia un cartello anche che riporti il Padre Nostro in lingua o lombarda o veneta o piemontese. Come fa a sapere Rognoni cosa guarda Maria? Come fa a sapere che guarda, oltre che agli stati, anche alle realtà come la Padania? E questo discorso è tutto completamente assurdo. Sentiamo ancora Maria che capisce il dialetto padano. Pensare che la Madre di Dio non possa capire tutte le lingue, tutti i cosiddetti dialetti del mondo, compreso appunto i nostri padani, non possa comprenderli, non possa amarli, non possa vedere che essi, che questi idiomi, che questi nostri idiomi ritornino ad essere vivi. ...19.26 cari ascoltatori, 824-0024, allora riprendiamo con i vostri interventi prima della pausa per la borsa. Alberto da Bergamo, buonasera. Ah, buonasera, sono Alberto da Bergamo, grazie. Io volevo intervenire sul discorso che lei aveva fatto anche prima, no? Del fatto che abbiamo un parlamentare strapagati, ma con un parlamento del tutto inefficiente. Secondo me questo è una conseguenza oggettiva di quello del problema della selezione del personale politico. Ora, se noi abbiamo dei parlamentari che sono strapagati, è ovvio che ci sarà sempre una caccia alla posizione di privilegio che questo concede. Per cui chi si farà avanti? Quali saranno i primi che si faranno avanti? I più intriganti, i più faccendieri, quelli che hanno più soldi da spendere per ottenere la carica. Dicono che ci sono parlamentari che hanno speso anche 1 milione di euro, forse più, per riuscire a raggiungere quella posizione. E quindi è chiaro che questi difendono le loro posizioni e difendono, vogliono avere un ritorno da quanto hanno investito per ottenere questa posizione di privilegio. È chiaro dunque che più i parlamentari vengono pagati e più la carica di parlamentare è oggetto appunto di queste ambizioni, di questi appetiti delle persone più punti intriganti e faccendieri. Secondo me il problema è quello di ridurre il costo dei parlamentari, gli stipendi parlamentari. Cioè un parlamentare, secondo me, così come avviene per esempio in Svezia, deve guadagnare non molto di più di quello che già guadagna nella vita civile. Cioè non si deve avere un ritorno economico, un guadagno o raggiungere la posizione di privilegio per fare i parlamentari. Cioè lui dice che dovrebbero guadagnare i parlamentari quello che guadagnavano prima più le spese. E vabbè, anche questa è una proposta piuttosto originale. Marco da Padova, buonasera. Buonasera, volevo intervenire sulle parole di Zaia, perché mi sembra assurdo, ci stiamo lamentando, io sono un commerciante di Padova e ci stiamo lamentando che le cose vanno male e ci viene offerta una possibilità di reinventarci, come comunque dovrebbe essere la politica di ogni imprenditore, quella di avere la possibilità di reinventarsi, perché se una cosa non funziona è inutile mettersi davanti ai nostri esercizi con le braccia incrociate e dire non funziona. C'è la possibilità, dopo nessuno è obbligato ad aprire. Io ho chiamato l'altro giorno appena mi sono letto. Lei insomma è ottimista, ci manda questo messaggio di apertura a questa questione. Io ho detto l'altro giorno che mi sembra che una sintesi potrebbe essere che c'è molta paura di tutto e anche questa cosa dell'orario dei negozi dimostra che c'è paura a cambiare. Poi ci sono anche degli interessi in gioco, non dico di no, però quando sento dire che chiudono i piccoli negozi, questa è una cosa che succede purtroppo, per fortuna, sicuramente purtroppo, ma da anni. Quindi adesso si tratta di fare un passo più in là. Lei dice reinventarsi, cioè i piccoli negozi devono fare qualcosa di più originale. Per esempio, ci dica lei. Ma è ovvio che nel momento in cui ti reinventi o comunque è ovvio che devi investire, andare a intaccare forse quello che ti sei messo da parte in anni di lavoro e devi reinvestire perché sennò l'attività si ferma. se fino adesso non sta funzionando in questa maniera, può essere che magari avendo degli orari diversi, spostando... Ma lei che cosa vende? Io ho un locale. Un locale che per fortuna funziona molto bene, però comunque a me farebbe comodo, alle volte mi trovo all'orario di chiusura che il locale è pieno, se potessi stare un'ora in più sicuramente magari assumerei una persona in più, perché farei un turno in più e non sarebbe, cioè sicuramente porterebbe più posti di lavoro, ovvio che costa invece, però bisogna pur rischiare, se no, si parla sempre di rischio di impresa. Rischiamo, cioè mettiamoci in gioco, è inutile che stiamo qua a guardare che ci passa addosso la marea della crisi, cioè bisogna tirarsi su, non si può mica stare sotto, ovvio che devi andare a intaccare quello che hai, ma se non rischi... Grazie no, non Marco, mi sembra chiarissimo il senso del suo intervento. Ci scrive Federico su Facebook, sono Romano, Satana è amico mio e Belzebù gli do del tu. 19:33 minuti, e che dire, ancora ascoltatori naturalmente, e andiamo a Isabel che ci chiama da Roma, buonasera. Buonasera a lei, senta, no, volevo parlare su questa cosa della liberazione degli orari dei negozi, perché per un buon periodo a Roma ho lavorato in una biblioteca e facevamo un orario fino a mezzanotte, dal giovedì al sabato, e si lavorava molto bene, anzi si lavorava di più che durante il giorno, però sto parlando del 91-92, dove l'Italia stava molto molto bene economicamente. Credo che non è il momento opportuno, la gente pensa che non andrebbe in giro in questo periodo a comprare 7-8 DVD come io vendevo allora, 6-7-8 videocassette a 30.000 lire l'una. Credo che i tempi sono un po' cambiati, sono chiuse tutte le botteghe di Borgo, io ho lavorato a Borgo. Però scusi, i tempi sono sicuramente cambiati, però possono cambiare ancora di nuovo e tornare più positivi di quello che non sono adesso. Intanto mi sembra però di capire che anche nella sua esperienza la liberalizzazione possa andare in un senso positivo, o per lei invece il fatto che c'è la crisi, come dire, è un ostacolo insormontabile, quindi è proprio inutile puntare sull'apertura dei negozi? Per carità, dire inutile non lo direi, però penso che non è il momento adatto. Va bene, grazie Isabel, mi sembra giusto il suo commento. Carlo da Brindisi, buonasera. Buonasera. Io vorrei sottolineare un aspetto, e cioè noi abbiamo visto la commissione presieduta da Giovannini lavorare per 2 mesi e ho sentito poc'anzi lo stesso Giovannini dire che ci sono stati esperti di caratura internazionale che hanno partecipato a questi lavori, e però non siamo in grado dopo 2 mesi di stabilire il compenso dei nostri onorevoli, e questa è proprio una cosa incredibile, no? Proprio prettamente italiana. Non è proprio così, non è che non sono in grado. Giovannini ha detto che matematicamente è impossibile stabilire il reddito di un onorevole italiano, così è. No, allora forse lei ha capito male, non è che Giovannini ha detto che non si può stabilire il reddito dell'onorevole. Ha detto che non si può comparare il reddito dell'onorevole italiano con quello del francese o del tedesco, non si può tracciare una riga una volta per tutte e dire chi sta sopra e chi sta sotto, perché ci sono molte variabili che rendono il calcolo complesso. In più lui ha aggiunto tra le righe: non mi è stato chiesto un confronto sul netto ma sul lordo, e questo ha complicato le cose. Maurizio, un attimo, infatti io volevo sottolineare questo aspetto, cioè che è proprio tipicamente italiano, no? Quello di avere una procedura farraginosa, piena di norme, di possibilità di scappatoie, di cose varie, che rendono appunto certo un dato, no? E questa logica che ha prodotto anche l'evasione fiscale, perché noi abbiamo volumi che riguardano tutto il fisco, centinaia di volumi, ognuno di centinaia e centinaia di pagine, di norme, di cose, che danno la possibilità ai vari soggetti di fare furbi. Quindi speriamo che Monti intervenga, non per la lotta all'evasione si fa anche rendendo le procedure meno farraginose, perché ricordo che il 90% delle dichiarazioni dei redditi non viene controllata dall'Agenzia delle Entrate, cioè uno che dichiara il falso nella dichiarazione dei redditi ha 90 probabilità su 100 di vincere, e questa è una cosa che bisogna risolvere prima o poi, perché sennò il paese è destinato a fallire. Un'ultima cosa, vorrei fare un applauso alla Guardia di Finanza per il blitz fatto a quella località, diciamo, a Cortina, di Cortina d'Ampezzo, a Cortina. Io vorrei ricordare che 40 giorni fa a Trani, nella provincia della Bat, in Puglia, la Guardia di Finanza improvvisamente alle 5 di mattina ha fatto questo blitz, cioè si sono presentati 200 uomini a perquisire un'ottantina di appartamenti per controllare che le compravendite erano state registrate in modo regolare. Ecco, sono andate alla ricerca del compromesso di compravendita e dell'atto notarile di con cui è stata stipulata la compravendita. Beh, lei lo sa che su 80 perquisizioni hanno rilevato almeno la metà di irregolarità e sono state denunciate una serie di persone. Quindi fa benissimo la Guardia di Finanza a comportarsi in questo modo. È l'unico modo per venire fuori e per risolvere questo problema dell'evasione e dell'elusione, che, ripeto, condannerà il paese a ucciderà il nostro paese. Non c'è alternativa a questo. O si combatte seriamente l'evasione e l'elusione, o saremo destinati a finire come Stato. Grazie Carlo, grazie Carlo che ci chiamate a Brindisi. Ci spostiamo a Lecco. Francesco, buonasera. Sì, buonasera a lei. Sono un espatriato italiano che vive da 8 anni all'estero e volevo portare la mia testimonianza, ricordando che comunque, a parte i parlamentari di cui stiamo assistendo a questa analisi in questi giorni, ci sono migliaia di diplomatici italiani che percepiscono degli stipendi di molto più superiori. Nella fattispecie abbiamo ambasciatori che percepiscono dai 30 ai 40 mila euro, abbiamo consoli che prendono dai 20 ai 30 mila euro, abbiamo direttori dell'ICE, dell'Istituto per il Commercio Estero, che prendono 20 mila euro, abbiamo degli attaché che a Roma prenderebbero normalmente 1200 euro, invece all'estero ne prendono 12 mila, abbiamo dei lettori universitari, dei test italiani presso le università all'estero che percepiscono 7.000 euro con contratti quinquennali. Cioè, questo qui è una cosa che nessuno sa e che non sapevo neanche io 8 anni fa quando sono andato all'estero, e che è una cosa da sicuramente a tenere questo presente. Questo degli ambasciatori e delle spese di rappresentanza all'estero, non lo so se rientra nella Commissione Giovannini, questo proprio non lo so, sarebbe interessante capirlo, perché credo che la Commissione, che deve ancora terminare il suo lavoro, si occuperà di tutta una serie di retribuzioni, di tutta una serie di categorie pubbliche. Grazie anche a questo ascoltatore. Adesso abbiamo un nuovo ospite, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, della questione dell'aeroporto di Frosinone, abbiamo parlato della questione dei vitalizi, e allora adesso abbiamo il piacere di ospitare Mario Abruzzese, Presidente del Consiglio regionale del Lazio. Buonasera. Buonasera. Come va? Insomma, bene, sì, molto bene, grazie, in questo inizio di anno. Io ho inquadrato la questione così, però... Buon anno a tutti. Grazie. Arrivando all'ultima piccola polemica che vi riguarda, per la verità molto piccola, oggi il Corriere della Sera, credo, il Corriere, sì, dedica un trafiletto alla questione delle maxi ferie presunte, adesso lei ci dirà perché non è così, dei consiglieri della Regione Lazio che si sarebbero fermati per... Vi siete fermati per 25 giorni? Cioè è chiuso il Consiglio regionale del Lazio? Assolutissimamente no. Mm. Io sto continuamente al lavoro, quindi io non mi sono fermato. Vabbè, lei è il presidente, magari altri, a qualche... Ma come sì, tanti altri consiglieri regionali, e neanche la Presidente Renata Polverini. Tra l'altro il 27 abbiamo avuto modo di fare una riunione insieme per pianificare tutto il lavoro dei primi mesi del 2012, quindi non confondiamo le ferie con, diciamo, la seduta del Consiglio regionale, perché da lunedì riprendono tutte le commissioni regolarmente a lavorare per esaminare le tante proposte di legge che sono presenti. Cioè, quindi il Consiglio regionale è chiuso, ma le commissioni lavorano? Lavorano, certo, lavorano tranquillamente, stanno lavorando e inizieranno a portare avanti tutta una serie di provvedimenti molto importanti. Quindi quanti giorni veramente sono, se non 25? Guardi, dal 23 abbiamo approvato la legge finanziaria e l'8 si riprende naturalmente il lavoro delle commissioni. Quindi 15 giorni. Il 23 dicembre avete approvato la legge finanziaria ed è in quella sede, credo, che c'è anche entrata la norma sui vitalizi agli assessori. È entrata in vigore anche la norma per l'abrogazione dei vitalizi. Per l'abrogazione a partire dalla prossima legislatura. Bene, e questa è una buona notizia, anche se si poteva fare anche subito. Però. No, guardi, intanto però è chiaro che ognuno deve fare il suo mestiere. Dobbiamo però dare l'informazione precisa ai cittadini, perché noi partiamo dalla conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni in delle province autonome che si è riunita a Firenze il 16 dicembre 2011, quindi il 16 dicembre 2011. E ha stabilito una linea di condotta. In quell'occasione abbiamo stabilito di procedere all'abolizione dell'istituto del vitalizio, a determinare anche per i consiglieri regionali il sistema previdenziale contributivo come per i lavoratori dipendenti, con la soglia dei 60 anni, e abbiamo anche valutato l'opzione di rinuncia al vitalizio, alla pensione, tant'è che noi nella legge che abbiamo approvato il 23 abbiamo messo anche questa facoltà, tant'è che al comma 7 dell'articolo 10 è previsto anche la facoltà di ciascun consigliere di rinunciare all'assegno di vitalizio. Quindi abbiamo applicato quello che la conferenza delle assemblee di concerto con la conferenza delle regioni hanno deciso, quindi siamo in linea con tutte le regioni. Sì, sì, no, siete in linea, però sa qual è la paura che hanno i cittadini? È che a dire aboliremo il vitalizio dalla prossima legislatura, si ha sempre la paura che poi, una volta insediata la prossima legislatura, sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, sul bollettino ufficiale. E però le leggi si possono modificare. Comunque il 28 dicembre 2011, certo, tutto può essere modificato. No, infatti è questo. Questo è, diciamo, il timore quando si fa una norma, guarda, che entra in vigore. Però io devo dire, le devo dare atto abruzzese. È la prima volta che ci sentiamo, però io sono 18 mesi che sto governando l'Assemblea. In 18 mesi ho portato a casa una serie di risultati molto importanti. Ho tagliato molte spese in consiglio regionale, ho ridotto lo stipendio ai consiglieri regionali. Di quanto? Di quanto ha ridotto lo stipendio? Ho ridotto del 10% lo stipendio ai dirigenti, ho ridotto le aree, i servizi, gli uffici, riducendo in un solo anno un risparmio di 4 milioni di euro, perché poi bisogna anche dare queste informazioni. 4 milioni di euro all'anno di risparmio con questi 4 interventi. Milioni in un solo anno, quindi sotto la mia gestione. Però saranno per ogni anno, no, questi risparmi? Certo, no, ma l'obiettivo dell'anno 2012 è di ridurre ulteriormente il bilancio del Consiglio regionale, quindi da 97 farlo scendere ancora di più. Perché e allora perché abruzzese avete fatto questa cosa del vitalizio agli assessori esterni, non i consiglieri, che ha scatenato diverse polemiche? Perché si dice, ma come si va sulla strada del risparmio e del taglio del vitalizio e invece si fa una specie di ponte, di proroga, di... Guardi, nella gestione nella discussione su questo articolo 10 si è pensato di sanare una anomalia del Lazio, quindi equiparando la funzione dell'assessore a quella del consigliere regionale. Tra l'altro questa norma esisteva solo nel Consiglio regionale del Lazio, perché in tutte le regioni d'Italia anche gli assessori prendono il vitalizio. Quindi abbiamo pensato di sanare con questa norma e nello stesso tempo di abolire i vitalizi, perché a me cioè avete fatto un pareggio, avevate una cosa che vi poneva in avanti rispetto alle altre regioni, l'avete voluta togliere. Ma non è vero, per andare a pareggiare potevate fare più bella figura, no, su questo fronte. Non è così, perché le altre regioni già avevano il vitalizio per gli assessori, quindi fino ad oggi abbiamo noi risparmiato rispetto alle altre regioni. È così, eh? Fino ad oggi, però adesso invece con questa norma andrete a spendere di più come Regione Lazio, e ripeto, forse poteva essere invece una cosa da mantenere. Non ci avete pensato a mantenere questa? No, abbiamo pensato, perché di sanare, si parla sempre di sanare, di pareggiare, quando si va sul vantaggio per chi fa la norma, in questo caso insomma i membri della giunta e quindi della maggioranza consiliare, non a pareggiare per andare al risparmio rispetto a quello che sono la maggioranza presente in consiglio regionale ha pensato di sanare questa anomalia. Certo, questo l'abbiamo visto e infatti abbiamo visto i titoli sui giornali. È stata approvata la legge, quindi Certo, è stata approvata, infatti da qui i titoli critici di molti giornali. Però io vedo che alla fine nessuno magari poi mette in risalto che il Consiglio regionale del Lazio ha modificato una legge importante per quanto riguarda la costituzione, per esempio, dei monogruppi, cioè facendo risparmiare una serie di svariati milioni di euro, perché nel Consiglio regionale del Lazio, e quindi una norma che io ho trovato e che vige da circa 20 anni, bastava un consigliere regionale per costituire un gruppo. Quindi io questo l'ho abolito, come ho abolito il 30% per esempio del parco auto, risparmiando altri 700.000 euro. Quindi parliamo anche ogni tanto di buona politica. Va bene, no? Queste sono cose positive da dire, assolutamente, perché poi ognuno si fa trae le sue conclusioni. Come, quindi, per esempio, ho abolito e fatto la rescissione del contratto di una sede di rappresentanza che io ho trovato al centro di Roma in Piazza di Spagna. Quindi ho abolito anche questo fitto di circa 350.000 euro l'anno. Una cosa pazzesca, perché una sede di rappresentanza in Piazza di Spagna. Questa per esempio è buona politica, che poi mai nessuno ne parla. Quindi sarebbe opportuno che ogni tanto si parlasse anche di questo. Comunque, va bene, torniamo a noi. Va bene, questo lei l'ha detto ed è giusto metterlo nel pentolone. Poi ripeto, ognuno tira le somme. Abruzzese invece c'è un'altra questione di cui noi abbiamo parlato. Avevamo chiesto un'intervista già qualche giorno fa, però sotto le feste, giustamente, non eravate raggiungibili. Allora ci arriviamo un qualche giorno di ritardo, perché anche questa è una cosa che ha sollevato il Corriere. Lei mi dirà che non è così, che sono polemiche prive di fondamento. Però parliamo dell'aeroporto di... Aspetti, mi faccia fare la domanda, se no sembra che non lo so, che c'è qualcosa che ha morso la tarantola. Mi faccia fare la domanda. La zanzara, anche perché io vengo da una città piena di zanzare. Da dove viene? Da Cassino. La questione dell'aeroporto di Frosinone, perché la domanda che io le faccio è questa: premesso che ci possono essere tutte le buone ragioni per fare l'aeroporto, potenziare l'aeroporto di Frosinone, però stante il fatto che in Italia ce ne sono già forse troppi, anzi sicuramente troppi di aeroporti, e ci sono delle statistiche che ci mettono al di sopra della media europea, io le chiedo: perché investire degli altri soldi pubblici, cioè dei cittadini e dei contribuenti, su un aeroporto che tra l'altro l'ENAV giudica non all'altezza di essere il terzo scalo romano, laziale, perché dice bisogna semmai puntare su Viterbo? Riviene fuori il campanilismo. Ma no, assolutissimamente no. Guardi, intanto anche su questo argomento è giusto fare una riflessione, ricostruire i fatti. Allora, l'aeroporto regionale, l'aeroporto di Frosinone, esiste nel programma, sia nazionale che regionale, ed è stabilito dalla tabella A della legge numero 4 del 2006, quindi non è che Passera ha detto che vuole rivederla, quella cosa lì. Ha detto un'altra cosa molto importante, ha detto che i soldi pubblici non ci sono più per fare gli aeroporti, e su questo io sono d'accordissimo, tant'è che noi l'aeroporto di Frosinone, che potrebbe andare anche a smaltire Ciampino, lo vogliamo realizzare esclusivamente attraverso un progetto di finanza, quindi di finanza a 0 euro a carico della regione. Quindi la regione sta facendo. Però intanto avete stanziato 1.300.000 euro. No, non li abbiamo stanziati noi, hanno già stanziati. Ma avete sbloccato lo stanziamento? Io ho sbloccato lo stanziamento perché già erano impegnati nel bilancio in conto residui. E ho sbloccato il pagamento per l'ingresso come socio nella SDF, società SPA. E qualcuno dice per fare nuove poltrone, per creare il nominato della Consiglio regionale. Il problema è molto semplice. Allora, noi il 7 luglio è stata pubblicata sul bollettino la VAS, la valutazione ambientale strategica. Quindi è necessario fare solo una conferenza di servizio per ultimare la fase finale del processo amministrativo. In quella fase vedremo se ci sono tutte le condizioni, dopodiché metteremo a bando il progetto generale per la realizzazione di questo aeroporto e lo metteremo sul mercato, come abbiamo fatto per esempio per la Roma Latina. Lei sicuramente è a conoscenza di questo progetto. Stiamo realizzando la Roma Latina per circa 2.700.000.000, di cui il 60% a carico dei privati e il 40% a carico del pubblico, attraverso una forma mista di progetto con il capitale pubblico e privato. In questo caso invece parliamo esclusivamente di capitale privato. Se però c'è un'opera comunque pilotata da voi, dalla regione, cioè voglio dire, il capitale regione... privato potrebbe anche arrivare qualora si proponessero agevolazioni, aiuti, sostegno, già c'è questo stanziamento di 1.300.000. Se l'opera è economicamente valida, se l'opera riesce attraverso un piano finanziario che l'imprenditore privato farà, darà il risultato sperato, l'opera si realizzerà. E quindi noi parliamo anche ovviamente di rilancio della nostra economia. La nostra economia si rilancia soprattutto attraverso la realizzazione di infrastrutture. È vero Infrastrutture nuove possono anche non essere necessarie, abruzzese, perché forse bisogna migliorare quello che c'è già. La sensazione che ci sia una scelta, che abbiamo Ciampino che in qualche modo deve essere rimodulato e rivisto. Ma è vero che l'ENAV ha detto, perché io l'ho letto ma non ho visto il documento originale, che a Frosinone è affossata e c'è il rischio nebbia. Ma guardi, non è così, anche perché l'ENAV... Non le chiedo se l'ENAV l'ha detto, non se è così o no, cioè l'ha detto o no l'ENAV questa cosa? No, non l'ha detto, anche perché l'ENAV... Allora letto male sui giornali. L'ENAV, ma la situazione è più semplice di quello che noi pensiamo, anche perché c'è la conferenza dei servizi dove parteciperà anche l'ENAV e potrà dire lì io sono contrario e quindi non andremo avanti. Va benissimo, chiaro. Non esiste il problema. Però la cosa importante è che noi, ecco, vorrei far riflettere un attimo lei e tutti i nostri amici che ci stanno ascoltando, che Frosinone, con l'aeroporto di Frosinone, con una metropolitana leggera, tra l'altro utilizzando le stesse infrastrutture che già abbiamo, perché noi abbiamo l'alta velocità, l'autostrada, tutta una serie di servizi che per esempio Viterbo non ha, tanto per essere molto chiare. Lei sa meno di me che Viterbo rientra nel piano nazionale dell'aeroportuale, quindi... questo tipo di infrastrutture facilita l'insediamento dell'aeroporto a Frosinone, ovviamente scaricando Ciampino, quindi andremo in qualche modo a pareggiare, come ha detto lei prima, una opera strategica importante nel Lazio, e quindi questa opera potrebbe realizzare una serie di interventi importanti sul territorio e darebbe sicuramente una occupazione, svolti occupazionali notevoli, insomma, per quanto riguarda il Lazio e la provincia di Frosinone. Perché, ripeto, quindi non ci sono discorsi di campanile, anche perché devo dire onestamente perché si legge, non l'ho inventato io, ho trovato già chi prima di me ci ha lavorato, quindi sia Marrazzo che... Però lei è della provincia di Frosinone. Il mio collegio è la provincia di Frosinone, ma lo sa qual è la differenza tra un consigliere regionale e un deputato? È che il deputato viene nominato, il consigliere regionale lavora continuamente sul territorio perché viene eletto attraverso un sistema elettorale. Peggio mi sento, abruzzese, peggio mi sento, perché proprio perché lei è stato eletto, il suo consiglio vuol dire che spingeranno per l'aeroporto, un aeroporto che può apparire anche, io dico può apparire anche inutile, perché ripeto, le statistiche dicono che in Italia di aeroporti ce ne sono già troppi, e questo è il punto di partenza, capito? Se non è economicamente valido, sarà l'imprenditore a rifiutarlo, sarà l'impresa, sarà il mercato. Però lei sa benissimo che gli aeroporti, sa benissimo, essere, abruzzese, sa benissimo che gli aeroporti bocciato da un direttore di una radio, abruzzese, no, un ma io non sono il direttore di una radio. Lei sa benissimo che gli aeroporti funzionano anche con le agevolazioni che gli enti locali fanno alle compagnie aeree, tant'è vero che abbiamo parlato ieri dell'aeroporto di Foggia, per esempio, dove adesso non c'è più neanche una compagnia aerea, e la Regione Puglia ha stanziato degli altri milioni di euro, non ricordo più quanti, in attesa che qualche cosa succeda, e mi ricorda un po' la questione di Frosinone. Perché l'unica compagnia aerea che c'era era una compagnia svizzera che non c'è più perché non ci sono più le agevolazioni regionali. Quindi ha capito qual è il problema. Stiamo dicendo la stessa cosa, perché noi siamo stati molto chiari anche con la società aeroporto, cioè noi non intendiamo impiegare risorse pubbliche per la realizzazione di questa opera. Va bene, questa è un'affermazione importante, però intanto il Consiglio di Amministrazione c'è ed è pagato coi soldi pubblici, o no? Attraverso il progetto di bilancio, i privati o gli imprenditori si fanno avanti per la realizzazione oppure non se ne fa nulla, quindi non stiamo discutendo di sperpero di denaro pubblico. Va bene, grazie abruzzese, buona serata. Mario Abruzzese, Presidente del Consiglio regionale del Lazio. 19:56 minuti. qualche ascoltatore all'800 24 00 24, prima della pausa e poi più tardi dei titoli dei TG. Abbiamo Cesare che ci chiama dalla provincia di Monza, Brianza. Buonasera. Pronto? Eccolo qua, prego. Buonasera signor Maurizio, io sono un ascoltatore della Zanzara, mi piace in tutte le versioni che c'è. Dunque, volevo dire, sentendo questo, io concordo certamente con quanto anche lei ha rilevato sulla questione di questa casta politica, che forse prima non era una casta, però nel momento in cui per 10 anni non ha affrontato i problemi del paese, ha dovuto rifugiarsi dietro i tecnici per affrontarli, e ha dimostrato un fallimento, per cui è una casta. Però c'è un altro aspetto della casta che emerge in questi giorni, ed è la casta dei sindacati, perché questi sindacati che si arroccano a difendere principi ideologici e si allontanano dalla realtà, per cui non si accorgono che l'articolo 18 riguarda una minoranza dei lavoratori oggi e la questione del lavoro va affrontata, sono una casta anche loro, perché difendono i propri rendimenti, la propria rendita di posizione, non affrontano i problemi, e questo è un male. E io vedo che il governo Monti, io non mitizzo Monti, è un docente universitario certamente di livello, di un'esperienza europea notevolissima, però il problema del governo Monti, tra gli altri problemi che deve affrontare, è il problema che i voti deve andare a cercarseli in Parlamento. No? E in Parlamento abbiamo questi signori che naturalmente non sono tutti uguali, però francamente la percentuale di chiusi in se stessi e incapaci di vedere i problemi è veramente alta in questa classe politica. Grazie, grazie. La ringrazio a lei, buona serata. Allora, qui si apre la questione, a Frosinone c'è o non c'è la nebbia? Perché un ascoltatore ci scrive al 349-238-6666 e vi prego di confermare o smentire. Sono appena passato da Frosinone sulla A1 e come sempre c'è nebbia, ci scrive Piero. E allora, se è così, cosa lo facciamo fare all'aeroporto di Frosinone? E allora, riprendiamo in attesa dei titoli, dei TG, riprendiamo con gli ascoltatori. Francesco da Milano, buonasera. Francesco, sì. Buonasera, sì. Sì, buonasera. Ma dunque, tutto complimenti per ciò che vi contraddistingue nello stile e nella classe, nella conduzione, fine. E poi, per quanto riguarda la casta, io la lascerei in India, nel senso che sono termini che per quanto riguarda l'Italia non utilizzerei, andrei più al sodo, sì. vedendo ciò che in realtà uno può guadagnare più o meno in un mestiere. Pare che quello del politico sia diventato un mestiere come gli altri, e crollo. Perché se aspettiamo ed attendiamo che le camere, non da letto, ma le camere diciamo repubblicano-democratiche, stabiliscano qual è il prezzo da spendere per se stesse, mi pare che attenderemo un po' troppo. Per cui o stabiliamo costituzionalmente o istituzionalmente un organismo di controllo che possa determinare la retribuzione di questi dipendenti dello Stato e dipendenti del popolo, o altrimenti dovremmo stare a fare trasmissioni come questa per altri decenni. Grazie, grazie. Sì, c'è un ascoltatore su Facebook, Sammy, che però fuori tempo massimo, non l'ho visto prima, dice: chieda ad Abruzzese che ne pensano i pendolari sulla linea Roma-Cassino e viceversa della questione dell'aeroporto. Evidentemente ci deve essere qualche problema forse su questa linea Roma-Cassino. Titoli del TG1. Lavoro dopo la tensione con la CGIL e il ministro Fornero incontra la Camusso. Crisi economica, Monti vedrà Sarkozy e poi la Merkel a Berlino. Nel 2011 l'inflazione sale al 2,8%, in un anno più 16% per il prezzo della benzina, più 23% per il gasolio. Costi della politica, dopo la pubblicazione del rapporto sugli stipendi dei parlamentari, Monti vede Giovannini e dice: terrò conto dei rilievi. Piano carceri, tensione fra il Ministero della Giustizia e i vertici della Polizia sull'utilizzabilità delle celle di sicurezza e il guardasigilli, norme concordate con Viminale. Tassa sul permesso di soggiorno, il governo contributo da ripensare, insorge la Lega, è una vergogna, anche il PDL vuole mantenerlo. Scattate in America le primarie del Partito Repubblicano. In Iowa Romney batte di misura la Rivelazione Santorum, si ritira la Bachman. Sabato sera parte Ballando con le Stelle, lo spettacolo di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, sfida fra Gianni Rivera, Bobo Vieri, Sergio Assisi, Anna Tatangelo, Marco Del Vecchio e tanti altri personaggi. La catena dei messaggi sull'aeroporto di Frosinone, ci scrive un ascoltatore, Gianluca, che chiama da Cernusco, ma evidentemente conosce la questione, dice: l'aeroporto di Frosinone è in mezzo ai monti, un incubo per la sicurezza, non lo faranno mai. 349-238-6666. Abbiamo i titoli da 7? No, non ancora. Allora, ascoltatori, Antonio da Siracusa, buonasera. Buonasera a lei, piacere di sentirla. Prego. Allora, no, si parla che la politica costa troppo, che l'Italia praticamente c'è un forte spread, insomma, che c'è inflazione, che l'Italia non cresce. Però secondo me, con tutto rispetto del professore Prodi che fece l'Italia, cioè l'euro, portò l'euro in Italia, con tutto rispetto di Berlusconi, con tutto rispetto di Monti, il vero problema sia che con questo euro non si è riuscito ad uccidere il drago. Cosa voglio dire? Perché abbiamo fatto una moneta unica, ma non abbiamo fatto una banca unica. Non so se mi spiego, cioè ogni Stato poi pensa per sé, quindi i paesi poveri, cioè non tanto ricchi di esportazione, perché la ricchezza dello Stato, dicevano i classici dell'economia, questa è una radio che si occupa molto di economia e mi fa molto piacere, diceva Adam Smith, la ricchezza delle nazioni è nell'esportazione, perché più vendo più ovviamente guadagno, più sono ricco, no? Siccome noi compriamo anche le materie prime, questo euro, con tutto rispetto, ripeto, di Prodi o di chi altro verrà dopo, signor Rossi esempio o Tizio Caio, sarà il problema di fare una banca unica europea. Ne parlavo di recente a una presentazione di libro dell'onorevole Bertinotti, che adesso fa lo scrittore in pensione, e lui rimase un po' stupito perché vi fece un esempio, cosa scriverebbe il vostro maestro che era un grosso socialista di Torino. Va bene, tutto lì, cioè ci vuole una banca che gestisca l'euro, non che ogni Stato... Va bene, grazie Antonio, lei ha espresso chiaramente il suo punto di vista su questo aspetto. Andrei ancora con i vostri interventi. Riccardo da Pescara, buonasera. Buonasera, innanzitutto complimenti per la pacatezza, insomma, e lo stile con cui conduce la trasmissione. Va bene, grazie. A differenza di Parenzo, insomma, che non se ne poteva più proprio, ed è il suo linguaggio scurrile, guardi, mi permette. Detto questo, dico soltanto che, insomma, sarebbe quasi ora di finirla, di parlare sempre degli stipendi dei parlamentari. Sì. Beh, sai, in questi giorni con questo rapporto della Commissione Giovannini era inevitabile, sì. Anche perché se ne è parlato tanto, adesso finalmente abbiamo dei dati, poi voglio dire... Dati che non sono che non vanno in un'unica direzione, però leggiamo i giornali, facciamoci un'idea e così poi abbiamo qualche elemento in più per discuterne. Prego. Sì, va benissimo, sono d'accordo su questo, però io vorrei andare un po' contro tendenza dicendo questo, che io insomma non mi pare eccessivo lo stipendio di un parlamentare. Cioè, anzi, io sarei forse cioè, metterei proprio un fisso per legge, cioè gli diamo 20.000 euro, 30.000 euro. L'importante è che producano qualcosa e l'importante è che in Parlamento ci vada qualcuno che sappia insomma come risolvere le cose. Tempo fa è stato vostro ospite un ministro Rotondi che in una precedente intervista diciamo non sapeva che cos'era lo spread. E quindi io penso... Insomma, ma questo basta guardare le Iene, qualche tempo fa avevano fatto quel servizio esilarante. Nessuno sapeva assolutamente niente dello spread. Sì. Ecco, quindi io non sarei contrario a pagarli, anche perché insomma ricoprono un ruolo prestigioso ed è giusto insomma che questo ruolo sia comunque anche pagato bene. L'importante è che dovrebbero lavorare un pochettino di più, questo è il problema dei parlamentari, ed essere un pochettino più preparati. Detto questo, volevo dire soltanto un'altra cosa: perché non fate una trasmissione oppure non accennate a... perché ho sentito su YouTube, la fonte è quella ormai, un'intervista diciamo abbastanza scioccante di Tremonti, che denunciava un complotto internazionale, gli Illuminati, Monti, Draghi, insomma tutti nel calderone, cioè tutti facenti parte di questo complotto internazionale per affossare l'Europa, per affossare l'euro e per affossare gli italiani soprattutto. Volevo sapere, va bene, non lo so se qual... vero, ecco, chi lo sa, vediamo se qualche altro ascoltatore, io no, si è imbattuto in questa intervista che dice lei su YouTube di Tremonti e vediamo se esce fuori qualcosa. Intanto titoli della 7. La classe politica fa quadrato attorno a se stessa per difendere stipendi, rimborsi, diarie, spese di rappresentanza e definendo la rivolta contro la casta demagogia e antipolitica. Ma la realtà che spunta dai numeri della Commissione Giovannini dice che la verità è ben altra. Cortina e i furbetti del paesino. Incredibili risultati del maxi blitz antievasione del 30 dicembre scorso. Gli incassi nei negozi lievitano del 400% rispetto allo stesso giorno dell'anno precedente. E delle 133 auto di lusso controllate, ben 42 appartengono a cittadini che denunciano meno di 30.000 euro lordi l'anno. Intanto le brutte sorprese per i nostri portafogli sono all'ordine del giorno, con i prezzi che aumentano e segnano un tasso medio dell'inflazione per il 2011 del 2,8%, il dato dell'Istat che precisa come si tratti della cifra più alta dal 2008, una cifra spinta all'insù dal rincaro dei carburanti. Carceri, tassa sugli immigrati fanno litigare il governo, la politica, la polizia. Contro il parere del guardasigilli, il prefetto Cirillo, vice capo della polizia, parla di celle di sicurezza piccole e sporche, di braccialetti più costosi di un bracciale bulgari. E la Lega va all'attacco di Monti, che vuole togliere una tassa, ma è quella sugli immigrati. Per i mercati la terza seduta dell'anno segna profondo rosso, con i listini che vanno in picchiata. Milano perde il 2%, trascinata a ribasso da Unicredit, le modalità di aumento di capitale a fondo del titolo che perde la bellezza del 15%. Piazza Affari, peggiore in Europa. Con lo spread ancora 500, ma non è solo l'incubo spread a terrorizzare l'Europa. L'altro buco nero si chiama Ungheria, paese dell'Unione Europea, anche se senza euro. In Ungheria la democrazia sta pericolosamente vacillando, con tentazioni autoritarie da parte del primo ministro Viktor Orban, e l'Europa almeno per ora può solo guardare. I mercati, vicino a Milano, due anziani uccisi nella loro villa a forza di botte in testa, la televisione accesa, nessun segno di scasso, appartamento in ordine, soldi al loro posto. Per qualche ora si parla di omicidio-suicidio, poi l'inchiesta cambia direzione, ma al momento non c'è traccia di un movente. Quando sono le 20:09, rientriamo ancora per questa porzione di programma fino alle 20:30 in compagnia degli ascoltatori, anche di qualche altra notizia e tra poco di un ospite. La notizia è un'intervista di Mario Monti a Le Figaro. In questa intervista Monti si toglie forse un sassolino dalla scarpa nei confronti di Berlusconi. Dice: il governo precedente non ha voluto ammettere la grave insufficienza della crescita ed ha tralasciato le politiche di liberalizzazione che avrebbero rimediato a questa carenza. Così Monti in una intervista a Le Figaro. Dicevamo, il prossimo ospite è un neo assessore del comune di Ischia. Buonasera a Luigi Mattera. Buonasera a lei. Assessore all'edilizia privata con delega al condono. Certo. È certo, adesso io dico altro che certo. Parliamo di Ischia, cioè di un'isola dove ci sono non so quante migliaia di abitazioni che sono classificate come abusive. C'è stato un condono, la Corte di Cassazione lo ha ritenuto non applicabile. Adesso c'è un rimpasto in giunta, una giunta inedita PD-PDL, e spunta fuori anche l'assessore al condono. Allora tutti, molti, si sono drizzati i capelli sulla testa a dire: ma come, non ho ancora capito che non bisogna condonare le cose abusive, bisogna abbatterle per evitare che poi succedano quelle cose disastrose, i costoni di montagna che crollano e la gente che ci rimane di sotto. Assessore, l'ho messa giù un po' drammatica, però già l'assessorato al condono suscita qualche interrogativo. Le dico che l'ha messo subito drammatica, perché sì, non è così. Però poi sai, la cronaca purtroppo a volte supera anche questo tipo di immaginazione. La giusta dimensione delle cose, insomma, non è che siamo... Ischia non è un covo di delinquenti, un'isola meravigliosa, abitata da gente meravigliosa. No, per l'amor del cielo, però ci sono queste migliaia di abitazioni classificate come abusive? La delega al condono edilizio è una delega che entra nell'ampia delega dell'edilizia privata, quindi, ed è una cosa che già esisteva da anni, quindi non è spuntata, come ha detto lei, la delega al condono edilizio. Cioè ce l'aveva prima un altro assessore. Io ho semplicemente sostituito l'assessore dell'UDC, precedentemente nominato dal sindaco, il quale aveva queste deleghe. Ho avuto in eredità, se così possiamo dire, tra virgolette, queste deleghe, rispetto alle quali ovviamente ne sento tutto il peso, l'onere, il carico, anche la responsabilità. e posso dire, come ho detto da più parti, che tutto sarà fatto secondo un criterio di trasparenza e seguendo i dettami della legge in vigore. Questo non c'è. Diciamo che la novità, ecco, sì, la novità consiste soprattutto consiste in questo che viene definito un laboratorio politico di Ischia, dove il PD e il PDL si uniscono in questa giunta. Questa è una novità che abbiamo. Ed è una cosa un po' strana, un po' inedita. Un laboratorio, io ho apprezzato moltissimo alcuni giornali di tiratura nazionale, i quali subito hanno preso la notizia e l'hanno catturata. Ma qual è il senso di questa notizia? Cosa c'è dietro? Sì. No, ricordo il giornale di Milano, che il giorno dopo l'intesa che abbiamo avuto plaudì a questo accordo, capendo subito che si trattava di un accordo di stabilità di governo e non di instabilità. Vabbè, questo allora, applaudire o non applaudire, questo non è mio compito, però la domanda è stampa di tiratura sì, nazionale. Sì. Qual è il senso di questo laboratorio politico? Cioè, perché sentite il bisogno di allearvi PD e PDL? Cioè, due partiti che, a parte adesso col governo Monti, ma è un caso particolare, a livello locale credo che sia una cosa che non ce ne sia in Italia, un'altra uguale. In Italia, ma guardi che in Germania accade questo già da anni e nessuno si scandalizza. Sì, ma a Ischia questo non è un fenomeno soltanto legato alla piccola provincia napoletana. Ma le dirò di più, nasce da un'esigenza di fare in modo che di aprire una prospettiva nuova, più solida, per poter uscire fuori dai ricatti delle piccole componenti e poter dare delle risposte immediate e sicure al nostro paese. Molto spesso le risposte immediate si danno quando si ha la forza politica di poterle portare avanti. Quando si viene tirati con la giacca sempre, continuamente, dai particolarismi che spesso si trovano in maggioranza o in minoranza, si corre il rischio di non poter fare niente per la propria gente. Ecco, questa è la motivazione. Assessore Poi Matera, c'è un'altra motivazione, è interessante. Lei sa, probabilmente, che Ischia è formata da 6 comunità. A maggio andremo a votare in 4 dei comuni su 6 che sono sull'isola. Quindi abbiamo pensato che sarebbe stato opportuno ragionare in maniera unitaria su 4 comunità, se era possibile, che andavano al voto, su determinati argomenti. Le dico subito, penso che sulla nettezza urbana Ischia soltanto paga circa 7 milioni di euro per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Poi pensi Casamicciola, pensi Laccameno, pensi Barano, poi c'è Forio e Serra da Fontana. Quanto costa in una piccola realtà insulare soltanto la raccolta dei rifiuti solidi urbani? Vabbè, ma questo che c'entra con quello di cui stiamo parlando? Spiego subito. Sì. Adesso faremo in modo che nei programmi elettorali delle prossime amministrative molte questioni, come quella dei rifiuti solidi urbani, come quella dei trasporti per esempio, diventi una questione comune che affronteremo insieme ad altre comunità. Quindi ci presenteremo all'elettorato in maniera bipartisan con delle intese precise su determinati temi importanti che tenderanno non solo a ridurre gli oneri per i cittadini, ma a migliorare i servizi e la qualità. Assessore, io però non ho ancora capito una cosa, adesso glielo domando, che cosa fa l'assessore al condono a Ischia, un posto dove ci sono, mi risulta, qualcosa come 20.000 abitazioni abusive, non è che fa in modo che tutto questo venga messo alle spalle, però mi risponda dopo il traffico, assessore, sì, un attimo, facciamo una pausa, poi mi risponde. Di nuovo in diretta in compagnia di Luigi Matera, assessore del comune di Ischia, al quale abbiamo domandato a cosa serve l'assessorato al condono a Ischia, dove, ripeto, ci sono o no queste 20.000 abitazioni classificate come abusive? Il problema è serio, è un problema che va affrontato con grande serietà e grande delicatezza. Le ripeto, un assessore all'edilizia privata non può far altro che applicare la norma e la legge. Esatto. Questa è una cosa a cui io tengo molto. E qual è la norma in questo caso? La norma è quella stabilita dalle regioni, dagli enti regionali e dallo Stato. Quindi che queste abitazioni sarebbero da abbattere? Sarebbe, se non ci sono le condizioni per sanare, sono da abbattere, certamente. Secondo la Però c'è questo se non ci sono le condizioni per sanare. Ma perché sono... Guardi, io sono una persona che ha una grande sensibilità per la propria isola. Ritengo che qualunque cosa che vada a deturparla o vada a mortificarla mi fa ribellare. Quindi si figuri un po' che se io potrei essere mai identificato come un devastatore, come un lanzichenecco del mio paese. Esistono le norme vanno rispettate, i funzionari dell'ufficio tecnico preposti le fanno rispettare regolarmente, poi questo non sta a me, io do degli indirizzi, altro non posso fare, esistono le sovrintendenze, esistono i giudici, esistono tutto un meccanismo, tutta un'architettura di enti e di figure che sovrintendono a queste cose, quindi andrà tutto de plan. Però mi scusi, assessore, lei dice che è sensibile nei confronti della sua isola, io questo ci credo, però dico, se ci sono queste migliaia di abitazioni abusive, evidentemente qualcosa è già stato fatto, c'è cioè una deturpazione è già arrivata, forse bisogna... Però guarda delle aspettative che un po' da tutte le parti sono state date ai cittadini e che poi non sono state mantenute. Cioè noi sappiamo che voi lì siete contrari. Sì. Non è la storia di Ischia. Ho capito, però parliamo adesso. Parliamo adesso di Ischia. Noi sappiamo che insomma la maggioranza, credo forse anche degli abitanti e sicuramente anche degli esponenti politici locali, è contraria ad abbattere le abitazioni abusive. È questo, no? Guardi, quando si tratta di necessità, quando c'è gente che ha sacrificato tutta la propria esistenza, il proprio lavoro, i propri risparmi per costruirsi un tetto, certo diventa duro, diventa difficile poi accettare la cosa così d'amblè. E bisogna avere, bisogna comprendere. Però, ma sarà lei quello che... Se c'è una sentenza, le sentenze vanno eseguite, quindi di fronte a questo io non posso... Però lei cosa farà? Cercherà di vedere se invece ci sono queste condizioni, se non ci sono queste condizioni, quindi per evitare che vengano abbattute le case. Io mi sforzerò di far applicare la legge, non posso fare altro, lo farò con grande disciplina e con grande senso del dovere. Cioè, che cosa vuol dire si sforzerà di far applicare la legge? Scusi, se la legge, io faccio applicare la norma, significa questo. Punto, mi sembra chiaro. Farò applicare la norma. Quello che può essere fatto, sarà fatto. Quello che non può essere sanato, non sarà sanato. Ci sono le sovrintendenze, ci sono gli istituti che fanno gli atti. Vabbè, che lei è assessore, secondo la legge saranno le pratiche saranno portate a termine. Io altro non posso fare. La nomina di un assessore, la funzione è quella di disciplina, di dare degli orientamenti e degli indirizzi. L'indirizzo è questo, è chiaro, è categorico, bisogna far rispettare. Sì, va bene, questa è una dichiarazione di principio. Di principio, perché di sostanza poi lei sa che la legge, lei stesso ha detto, la legge va rispettata se non ci sono le condizioni, cioè verrebbero abbattute, possono essere degli abusi minuri. Ecco, abusi minuri. Essere sanati. E infatti la domanda che io le vorrei fare è questa, assessore. Vengono presi in considerazione. Ecco, lei è assessore da troppo poco tempo, perché credo che sia lì da un giorno o due, insomma, però non è che viene da Marte, insomma, quindi conosce la realtà di Ischia. In che percentuale, secondo lei, di queste 20.000 abitazioni abusive? No, non glielo so dire. Non glielo so dire. Questo veramente non glielo so dire, perché solo ieri ho preso contatto con i dirigenti e quindi stiamo cominciando a verificare un po' lo stato dell'arte, insomma. Ecco. Però le posso dire che c'è la commissione che sta funzionando, qualcosa sta andando in essere. Però nel dettaglio adesso in questo momento non le posso dire nulla. Comunque il condono che era di che anno? Condono era il condono che fino adesso del è 2000... limitato al 2000... il primo condono questo qua, perché non ci sono stati altri tipi di condono sui quali si fanno delle valutazioni. Adesso ci sono delle valutazioni. Che la Corte di Cassazione si è espressa contro il condono, era il condono del 2000... il condono fino al 2003. 2003. Quindi diciamo adesso la norma che fa fede è questa, cioè il condono non si può applicare. No, non si può applicare secondo quelle che sono le leggi dei vincoli ambientali, urbanistici ambientali. Quindi lei dovrà vagliare quante migliaia di pratiche più o meno? Ma sono circa 6.000, mi hanno detto ieri. E vedere caso per caso? Caso per caso, c'era una commissione che verificherà gli atti, quindi poi gli atti saranno spediti alla sovrintendenza, torneranno emendati, bocciati, approvati. L'ultima domanda che le voglio fare, senza entrare nel caso per caso, qualora insomma, anche in termini di legge ci fossero delle abitazioni da abbattere, non pensa che sarebbe un poi trovare delle forme di compensazione, questo si può chiedere anche l'aiuto del governo, non pensa che sarebbe un bene per l'isola eliminare queste cose ultra abusive? Guardi, è un bene, è una necessità. Noi non possiamo pensare che un manufatto abusivo, completamente abusivo, irrealizzabile, possa avere nessun tipo di approvazione. Ecco, questo. Quindi, questo è fuori discussione. Vabbè, però bisognerà vedere poi nei numeri cosa accadrà. Vabbè, grazie assessore, assessore Luigi Matera del comune di Ischia, buon lavoro, neo assessore da 2 giorni solamente, quindi è evidente che sulla materia più di tanto non si poteva sbilanciare. 20-23 minuti, riprendiamo con i vostri interventi ancora per questo spicchio di trasmissione. Francesco che chiama da Siracusa. Sì, pronto. Buonasera. Sì, buonasera, mi chiamo Francesco, sì. Complimenti per la trasmissione, molto bella veramente. Volevo dare un consiglio io al governo. Se può passare la radio così la sentiamo meglio, grazie. Infatti, anzi, la spengo direttamente, sì. Che è meglio, via. Allora, volevo dare un consiglio al governo Monti, diciamo, combattere e puntualizzare sempre sull'equazione fiscale e controllare soprattutto 2 categorie di lavoratori, io li chiamo lavoratori, avvocati e amministratori. E controllare soprattutto i loro conto correnti e tutti quelli che hanno il sistema truncation. Il sistema? Truncation. Se può essere un pochino più, dispensarci qualche parola allora, in più così capiamo. Per saperlo a me mi è costato 3.000 euro. Mi è costato. E voglio starlo, diciamo, renderlo anche pubblico così questo sistema truncation, perché con la mia banca giustamente è stato degli assegni a un avvocato. 2 assegni in un anno, da 1.500 euro ciascuno, che poi sono risultati intestati alla suocera. Sono stati intestati. Quindi, quando ho chiesto, diciamo, la fattura e prendevo il suo tempo questo avvocato, sono andato in banca a far ritirare la copia di queste assegne. La banca mi risponde che è stato scambiato col sistema truncation e se entro 15 giorni non gli davano gli assegni, veniva archiviata. Ho dovuto lottare un anno per averle. Questo sistema truncation praticamente non è altro che di solito la procedura, quando io metto un assegno, quello che va a cambiare l'assegno, dopo un periodo di tempo, l'assegno deve ritornare alla mia banca. Mentre invece oggi con questo sistema di computer via email, loro mandano, diciamo, il numero dell'assegno e riscuotono l'assegno, però l'assegno praticamente rimane a loro e non hanno, diciamo, per legge rimandarlo alla propria banca. Francesco, io non lo so, lei ha fatto questo intervento, ci ho capito pochissimo, pazienza. Andiamo ad un altro ascoltatore, speriamo nella sorte. Enrico da Torino, buonasera. Oh, buonasera, la sorte le dice male, buonasera, perché io ho un intervento molto critico verso di lei, sì. Mi sente? Sì, sì. Mi sente, sì, perché appunto sta storia di non aver la radio. Niente, mi sembra in 3 minuti l'argomenterò che lei abbia un gusto tutto suo nel gigionare gli ascoltatori. Direi coglionare, ma gigionare suona un po' meglio. Le faccio 3 esempi. Madonna che parla padano, il portaborse di Scilipoti e la casta ingorda. Allora, Madonna che parla padano, lei mette con la subdola tecnica i riflettori su certe cose e non li mette su altri. Così fa fare, per esempio, al professor Rognoni la figura del deficiente. Ma io ho ascoltato... Beh, ci ha messo del suo Rognoni, devo dire. No, io ho ascoltato la trasmissione del professor Rognoni. Sì. Allora, lui argomentava e diceva che la Madonna comprende il bergamasco, sì. Ma lei si è ben guardato dal dire che lo diceva, perché la Madonna è apparsa alle Chiaie, in provincia di Bergamo, la veggente è ancora viva, la potete intervistare, era bambina allora... E ha parlato in bergamasco. La Madonna è apparsa a Lourdes, a Bernadette, che era una pastorella ignorante, non parlava certo francese, e le ha parlato nel dialetto locale. Quindi questa storia che la Madonna parla non solo bergamasco, ma tutti i dialetti del mondo, come dire, se ha parlato in quella lingua è perché la comprende. Non credo avesse dietro un disco, ha messo il disco e ha mosso solo l'altra. No, ma capisce che era semplicemente anche una forma di ironia. Io tutto questo retroscena ammetto di essere un po' ignorante, il fatto di miracoli, di apparizioni della Madonna, e quindi mi prendo da questo punto di vista la reprimenda sua. Però ci si scherza anche un po' su. Io quello che non capisco è a cosa serve questo tipo di argomentazioni su Radio Padania, cioè parlare della Padania come se fosse una cosa, ha capito? Ma comunque lei non comprende o non sì. Vuole comprendere. Comunque il portaborse di Scilipoti, io in Padania ci sono nato e cresciuto, comprendo benissimo la rabbia nel vedere certe cose e il desiderio di indipendenza della Padania. Ma che comunque, c'entra la Madonna di Lourdes? È questo quello che io dicevo. Cioè. Guardi, lei sa benissimo che manca un minuto alla fine. Se vuole ne riparliamo. Le stavo solo dicendo. No, guardi, se vuole ne riparliamo. No, io non voglio per niente riparlare. No, le mando anche una mail perché ma lei mi mandi come tutte dire, le mail in che un vuole. Minuto non può capire. Allora, ma io forse neanche in una vita posso capirla a lei. Sa. Il portaborse di Scilipoti. Sì. ci vuole il cervello di un bimbo di quinta elementare, ragionando per algoritmi, nel capire che se era per Scilipoti quando era in Italia dei Valori, se adesso fa ancora il portaborse per uno di Italia dei Valori, manco voleva dire il nome, gliel'ha fatto dire lei, è chiaro che è un simpatizzante di Italia dei Valori. Il portaborse è una figura ibrida, è un gran simpatizzante, prende dei soldi di rimborso, ma agisce in quel partito con quegli onorevoli perché lui è di quel partito, almeno ideologicamente. Allora, non è che un partito può pagare anche i militanti, chi dà i manifestini e così via. Se prendeva una paga bassa, ma era perché ci stava, si spera, per motivi di ideologia. Grazie, dobbiamo... guarda, mi dispiace, lei dirà che io le taglio con la parola, ma io le tolgo la parola perché il programma è finito e devo dare la linea alla borsa. Lei si è preso 3 minuti e ha tolto anche la possibilità a un altro ascoltatore di parlare, ma insomma... tant'è, secondo me ci ha capito poco nell'intervista di Pirillo, questo però è il mio punto di vista. Grazie, buona serata a tutti, un ringraziamento a Laura Marchesi, Viola Bottoni e Valeria Bernardi, ci risentiamo domani dopo il GR delle 18, buona serata a tutti.